10. Attenzione canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Avanti, chi è? Buonasera, buonasera, non ho copiato bene, nominativo, comunque fai un altro passaggio. Positivo, positivo, sono Gianni. Ciao Graziano, boh, sei basso rispetto a quando ti ho sentito l'altra sera, sei proprio basso, ma hai cambiato posizione o che cosa? E boh, sei proprio basso Graziano, il segnale. Guarda, sì, ti sto ricevendo con un Santiago di 3, chiaramente con segnale così basso si sente molto il QRM sotto, e quindi, però si capisce, dai, la radio è comprensibile, non ti do 5 perché non è la radio che come ti ho sentito l'altro giorno, capito? Guarda, Santiago 3-4 è la radio 3-4, perché chiaramente il segnale basso non spinge molto bene la radio, capito? KK, se Santiago 3-4, come ti ho detto poco fa, e niente, sembri proprio lontano, e magari stai uscendo proprio con pochissimi watt. Caspita, allora bisogna porre rimedio, grazie, perché insomma sono tanti, forse per quello che praticamente non stai riuscendo bene pulito e come dovresti, capito? Sicuramente quell'aggancio lì, quel barilotto ti sta dando dei problemi. Gappa, e magari nel corso del tempo si è anche ossidato, quindi col passare del tempo magari il contatto non è più come prima, e quindi adesso ti sono salite le stazionarie. Ho capito, lo so, probabilmente quello che non ti fa uscire di sia come segnale che come radio, insomma, pulito, è proprio molto molto basso, io ti dicevo molto molto basso rispetto all'altra sera, vuoi la radio ma soprattutto anche il barilotto che c'è qua, aggiungo un peso. Sicuramente quella del barilotto è una questione da risolvere subito, ma non riesco a capire, cioè, se con l'altra radio uscivi bene, con una radio bella, squillante, pulita, cambiando radio, cazzo, c'è tutta questa grandissima differenza, è quello che mi lascia un po' così, capito? Andare, fai, non ci sono problemi. Ecco, ora Benario 10. Avanti Graziano. Beh, come mi senti adesso? Caspita, adesso sei, adesso vai veramente bene. 9-10, radio perfetta. Ma era anche dal piede, infatti adesso è volante, lo devo salvare, ho messo per provare. Questa è la tua radio. Sì, questa esce forte, dai, come ti ho sentito l'altro giorno, dai. Una che a guba, dai. Questa è nuova, quella là da 40 anni più. Ma sto guardando questo piede, l'ha messo male, mi ha distrattato. L'ho messo volante, adesso me lo salto. Va bene così. Sono sicuro che se lo giunti, se fa la cintura del capo con una bella soldatura, isolato bene, sicuramente è molto meglio del PL, grazie. Il PL adesso lo salva, perché non è un messo salva, l'ho piegato in filo, capito? Non c'entrava però nella radio, l'ho messo dritto, già si è entrato, capito, il volante. Però appena c'ho voglia, salgo su, mi salgo già il PL, ce l'ho lui, e lo metto tutto intero, dico, no, lo devo levare questo, era provvisorio questo. Andava, sì, è una traguba proprio. Ascolta, se si può dire, ma adesso la radio che stai usando è più potente di quelli noi più vecchi o è più o meno la stessa potenza? No, questa è più potente, però la potenza ce l'ho chiusa, è a zero, perché, vedi, così come adesso mi segna, aspetta un buon occhiale, altro lì, mi segna, ho capito, no, ma dico i watt, cioè, la potenza della radio, quanti, con quanti watt stai uscendo, cos'è, omologata? Chiusa, chiusa, a zero, perché se l'altro la potenza, mi salgono le stazionarie, dunque la potenza chiusa sto usando, quando cambio il filo allora già la posso aumentare. Andava, ok, sì, no, no, ma adesso era giusto per curiosità mia, per fare un paragone con il segnale di prima, capito? Sembra proprio che chiaramente la radio è diversa e sicuramente cambia anche leggermente la potenza, visto il segnale poco fa, era quello che stavo cercando di capire. Beh, logicamente questo c'ha più potenza, anche se la potenza ce l'ho chiusa qua. Perché se non mi segna più stazionario, se io la apro, con quello là non esco mai come con questo, già esce forte con quello là, ma non mai come questo, capito? Eia, bene meda, e beh, come te l'ho già detto poco fa, questa è un'altra cosa, è proprio un'altra guba, tutta un'altra questione. E beh, adesso, una volta che hai capito qual è il problema, manca solo risolverlo lì. Lo so, vedi, adesso c'è la lecca inserita, l'ho levato in questo, adesso non c'è più. Sì, adesso è pulita, senza ecco. Ed è sempre forte. Sì, abbastanza, 5 proprio super radio, dai, va benissimo. Vedi, stazionare mi segna sempre 1,5, 1,6, massimo 2, massimo, però per adesso stavo osservando 1,5, dai, può andare, però la potenza chiusa. Ho capito. Nel capo, se non ci sono giunture è meglio, se ce ne sono di meno, lo stesso va bene, cioè nel senso, io l'avevo tempo fa, avevo del capo che avevo giuntato, ma c'era solo una saldatura, avevo fatto una saldatura e andava bene, avevo preferito saldare il capo piuttosto che metterci un barilotto, perché sicuramente col barilotto magari mi aumentavano di più le stazionarie. Beh, dove la prima con il capo giusto senza mettere prolunga aggiuntiva arrivavo bene, però da lì l'ho spostato, il capo in facciata non se ne vede più, però cavo, capito, l'ho fatto per non vedersi il capo in facciata, però me l'ha accorciato, capito, allora io ho dovuto mettere un barilotto con questa prolunga, ma provvisorio, adesso il capo ce l'ho, i PL nuovi ce l'ho, in macchinista lo devo solo saldare, salire su, svitto quell'abitare nuovo e buttarmelo giù, capito? Ed è più lungo, è nuovo, è lunghissimo e me lo faccio giusto alla misura dove sono adesso, capito? Andavè. Ascolta, grazie, che antenna c'hai sul tetto? Una Mantova di 50 anni fa, tutta bucamari, era nato un burro accorciato da sighetto, 15 centimetri, perché come l'avevo smontata per pulirla c'è tutta slabrata a colpo di macchetto e di scalpello a chi si era ossidata e si era congiunta, capito? Allora gli ho dovuto dargli agro sighetto. L'ho pulita, rispiazzata ed è un bombo. Bene, dai, già ha fatto i suoi anni, dai, comunque. Se è vero che si comincia gli zenni, cioè, lo so che è vero, che va quasi 50 anni, ha voglia che non ha fatto i Santena. No, sicuramente, cioè come stavi dicendo tu adesso, è questione solo di rimetterci il cavo nuovo e vedrai che si mette tutto a posto. Questa antenna me l'aveva regalata Natalino, e non so quanti anni vi aveva detto, me l'aveva parata in campagna e l'avevo messa così come me l'aveva data lui in campagna. una volta che la campagna mi ho voluto levare tutto, l'ho portata qua su e ce l'avevo buttata in garage, la stavo regalando, non ne hanno voluto. Una lì mi tocco botto, me lo faccio buttare via nel rotto, la giocuta una giusta, l'ho fatta lucida lucida, scarpa vetrata, accorciata, tutta pulita, ingrassata, l'ho piazzata ed è una bomba. Eia, eia, ma vabbè, questo siamo, sempre se me lo puoi dire, ma sopra di te c'hai direttamente il tetto oppure sei distante dal tetto, grazie. No, io sono proprio sotto il tetto, sono a terrazzi dove abito io il tetto, capito? Volendo uno si avrebbe fatto un coso satellitare, ma a me non me ne ha tutti nulla. Ho capito. Comunque dai, a quanto mi sembra di capire, tra l'antenna e l'apparato non è che ci voglia così tanto cavo, dai. No, assolutamente, dopo ce l'ho adesso, mi basteranno, penso, un 10 metri, una cosa del genere, neanche. Figurati, e allora, sì, va bene, chiaramente meno cavo c'è e meglio è, anche per le stazionarie. E ascolta, ma che cavo hai preso? Beh, l'avevo fatto comprare da Gio Maria lì in via 4 novembre. L'ho preso per il PMR, per l'antenino del PMR e per questo. L'ultimo di generazione che c'ha il filo rigido, però è fine, è flessibile questo, capito? C'ho anche l'RG8, anni ce l'avevo e mi pare che l'hanno fatto in garage, a chi era giusto che la palla. Era grosso, era brutto. Oggi con peso. Cosa c'hai? Il 213? Quello buono, il più buono ho preso. Ne avevo preso 30 metri, mi sembra che avevo pagato sulle 70 euro, una cosa del genere. Eia, bene meda. Beh. Avevo solo piazzato, grazie. Io ho un anno Biazzero, non ce l'ho da un bimbi, infatti Gian Maria mi putti sempre. Questa forse è la volta buona, dai, questa è la volta buona che magari riesci a metterlo, dai. Sai cos'è, quando non sei sano, vedi una righina e gana, vedi se righino e gana, ma cosa apri bocca con tutti i maranni che faccio, con tutti i medicini che piglio. Capito, non è che ho tutta questa flessibilità come prima, capito? So cos'è per i tresci da ripilare, ne so che ci brulla poco da ripilare, sarà un mese, due mesetti, dai, che ne sono uscito. Aspetta, capisco allora questo tentennale, dai. Vabbè, già hai tutto disponibile. Sicuramente già troverai i 5 minuti quando dà a capo. e così ti metti il capo nuovo. Io sono occupato con 5 mesi, ma 5 minuti altri mi posso giusto, io sono occupato con 5 adesso che sono in casa in pensione e malato, se no prima non vedo mai in casa. Immagino. Ascolta, l'altra volta mi avevi detto che volevo chiederti una cosa, non so se ti ricordi, al cimitero c'era una piccola officina del comune, non so se mi puoi dare conferma. Ma dove ci sono i muratori, lì quando entri sulla sinistra, vicino alla chiesa a sinistra, dentro il cimitero lì. Praticamente una volta che fai il cancello principale, no? Fai il cancello principale, c'è il viale proprio d'ingresso, e mi ricordo che adesso mi ricordo se era a destra, prima di arrivare alla chiesa, adesso sono passati tanti anni, mi ricordo che c'era un'officina dove tenevo dell'attrezzatura, era roba del comune se non sbaglio. Ah, Ah sì, che c'è un cancello prima di mettere il piede nel piazzale, proprio all'angolo. Però il cancello è sulla destra, è quel cancello, l'officina comunale. Poi il laboratorio, diciamo, dell'opera del cimitero è all'interno del cimitero sulla sinistra, dove ci sono muratori a fase nei luculi, forse buoni nei muri, capito? Quello è sulla sinistra. Invece il coso comunale è prima di attraversare, già c'è la chiesa lì. Sulla destra lì la cantunazza. Il cancello, sì che c'è. Ho capito. Ma allora sicuramente lo conosci. L'ho rivisto da poco. Anni fa, praticamente lo fa lì, Vittorio, meccanico Vittorio, tu lo conosci? Adesso non mi ricordo, io ci manco da molto o da lavoro. Io ero al comune lavorando, poi me ne sono andato. A chi non mi piaceva a fare solo l'autista, io facevo l'autista e me ne sono andato. Ehi, no, siccome l'altra volta me l'hai detto e pensavo che magari potevi conoscerlo, lui ti parlo degli anni 90, quando lavoravo per il comune con i canti di scuola, sono andato un paio di volte lì per mettere a posto la roba e avevo conosciuto Vittorio, il meccanico che c'era lì, poi da chi vi se n'era andato, faceva mezzi agricoli, trattori, roba del genere, faceva mezzi industriali, insomma un bravo meccanico. E pensavo che lo conoscessi. Vabbè, lui adesso si è trasferito alla corte. Magari già lo conosco, perché in comune io li conoscevo tutti, all'autoparco e dove ero assegnato a andare conoscevo tutti, capito? Solo però ho detto, visto non era travaglio, ma a me mi piace girare, e allora ero entrato a lavorare alla Gondrand, dopo da Nizio, trasporti, da Aruni, e ha girato travagli, sempre come autista. Ho capito. No, vabbè, te l'ho detto. Ho detto, sicuramente magari, visto il lavoro che faceva, magari lo conosceva. Vabbè, era giusto una curiosità, niente di speciale. Magari se lo vedo già lo riconosco. Adesso non è che, per dire, un mese fa è morto uno che stesso lavorava lì, in comune, signor Deligios. L'altro giorno ha fatto un mese, è morto un mese fa, quello lavorava all'autoparco in comune. E in Piccioni vi era un 5 anni, penso, già, e abitava qui di fronte a casa. E si c'è morto. E tanti altri. Ho capito. Andavè. Vabbè, stiamo adesso, io ti sto parlando anni no, sì, 90, 91, dai, era più o meno quello il periodo che ti stavo dicendo, che mi sono avvicinato lì per far riparare, l'allineamento, cos'era, motosega o del cespugliatore che si è rifasciato, l'allineamento, e mi ricordo che siamo andati in questa piccola officina, lì al cimitero, nel cancello sulla destra, a portare la roba a aggiustare, era giusto questo ricordo che mi è salito in mente. Ma quel locale lì c'è sempre, lì c'è un cancello grande, entri dentro, vetori bettumieri, un casino di roba c'è lì, transenne, banche di scuola, giù c'era mutinaggio, tutta la catastrata, la roba così. Penso sia sempre così all'interno. Figurati che quando c'ero andato io avevo visto dentro quel deposito avevo visto la statua che avevano levato dal lavatoio che c'era a Rosello, ed era dentro quel deposito. era un gettito, ma non solo i vino, sino l'autoparco, non il piazzato per mettevamo il camion, più giù lì, e veniva poco di attrezzatura in mezzo all'erba, tutta gettata lì, taglia la roba dei gari, per carità. Vabbè, adesso avrei detto un'altra cosa. Sono andato a... quando è? Tempo fa sono andato a una passi in roba, mobili bici, materassi, una lavatrice vecchia, plastica, cassette, insomma. E poi miracolo che si era arrivato a impiantare un camioncino, se no guai, se no duravami in campagna praticamente con un camioncino pieno. Adesso è diverso perché adesso è tutto in appalto e quelli che sono lì, quelli sono tutta gente che hanno preso gli appalti e l'hanno ripulito, l'hanno risistemato e tutto quanto. Si è agitato l'operaio di un comune e gli hanno mangiato perché ne basiano di gusto. Mina di un nicito che le mandano, per carità. vabbè. Ho sentito un'altra modulazione sopra, non so se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti! Avanti che vuole entrare! Boh, vabbè, forse è una propagazione, ma non credo, no. Oggi è bassa. Non lo so io, non ho fatto l'atto. Non stavo appena accendendo a provare il filo perché questa prolunga non arrivava proprio a terra. Allora ne ho disaldato il PL, l'ho passato dietro un pensile e l'ho fatto scendere più giù. A chi se no fa già trabocchetto, lui ha farbetti che hanno abbassato. Invece adesso già rimane in terra, l'ho abbassato solo a terra adesso, capito? Beh, però è sempre provvisorio. Eia. Va bene. Se me lo puoi dire che radio stai usando, grazie, ma giusto per curiosità a me. Questa radio è una CR, aspetta, non ci vedo senza gli occhiali. Allora, è il 7009 questo. È il 7009, non vedo senza allora. Cosa c'è scritto qua? Aspetta. Lampazino, ciao, grazie. Ciao Gianni. Giulio, il 7009, la radio che ho io, il nome com'è? Non riesco a leggerlo se sta occhiali. Sì, 7009, sì. Della CT, come sei lei? CT, non mi ricordo il nome. CRT. Quella è Gianni. Forse ho capito. Forse aggiungo un paese, Marcolino sicuramente la conosce molto, molto meglio di me. Comunque mi sembra di aver capito. Buonasera Giulio, ben entrato. Marco ce l'ha uguale. Sì, Marco mi sembra che ce l'ha uguale, sì, è vero. Ciao Gianni, salutoni, ben ascoltato. Caldo, già sei anche oggi, dunque non ci possiamo lamentare. C'era Graziano poco fa che stavo provando un'altra radio, però stavo scendo basso e ha trovato il problema del cavo, infatti volevo un controllo bagisso. Ah, ho capito. Ma Graziano già ne ha diverse del radio, dunque già ci sono dei momenti che esce veramente bene, è una delle migliori radio della frequenza, perché quando usa quello con la camera eco, cos'era quello, se non me lo ricordo. Lo Zodiac, no, quello l'ho venduto Giulio, 100 euro, l'ha giudato, camera eco, radio e microfono, l'MB+4. Ah, ma che non me l'hai visto, mamma mia, da un po' come. Che non me l'hai detto, te l'ho pregato io 150. Boh, vabbè, facciamo te. Cosa vuoi dire? E perché te l'hai venduto? Se quella era una radio bellissima, funziona ottimamente bene. Io sto prendendo piano, no, non me ne posso nudare di tutti i radio. C'ho l'inoriti, un acquaracchino, un inutile, che ci può bene lo stesso con quello. Poi c'ho quello grande che ci aveva visto un tempo. Poi cosa me ne vuoi? No, volevo dire che da loro bevi tenere, grazie, che era la radio più bella di tutti quella, con quella camera eco, era spettacolare. A chi l'hai dato, si può sapere? L'ho messo su internet, ho un ragazzo di Porto Torres. Ah, ho capito, ho capito. Non l'avrei dato a... come si chiama quello di Porto Torres? Non me l'ha messo più nel manco. Ma forse non sarà Gianni il portatore, se no? No, Giovanni si chiama, però non le ho chiesto un cognome. Giovanni, l'ha visto su internet. Ma già è lui, dai, già lo so. Già è lui, già è lui. Quello che una volta modulava la Nulvi. Quello lì è sicuramente quello. Perché tu non hai venduto poco, grazie, ma tu lo sai quanto costa solo una camera eco? Guarda che solo una camera eco costa intorno ai 130 euro, solo una camera eco. No, quella l'avevo pagata pure di più, perché me l'aveva comprata Antonello tantissimi anni fa, ma era nuova nuova. Era sempre attaccata allo zodiaco, perché l'avevo fatto due staffette ed era bloccata sopra la radio. Ah, cosa, non me ne ha fatti nulla, troppa roba, non ne posso nulla, l'hanno preso. Da rimani la fatta 30 rubine. E la vende il buco. Quando me ne tengo due, viene a fare il buco. Vabbè, d'accordo, uno è venderlo, ma l'altra è svendere. Ecco quale cosa intendo io. Grazie. Non è saputo fare l'affare. Io non dico che devi esagerare col prezzo, però non l'avevi nemmeno regalare. Tu l'hai regalata a collarti per fare colpa. È roba tua e sei tu quello che hai fatto. Va bene, va bene. Avanti, Gianni. Si sta prendendo un po' la propagazione, cioè, sento gente sotto, adesso non so se in FM in banda laterale, comunque già sono gestibili ancora, dai, non ci sono problemi, e niente, e questo è quanto, adesso vediamo se Marconino oggi è sceso al mare, magari si mette in contatto col famoso baracchino. Maxcom, come ti si chiama? Mi ha mandato le foto sul telefono, l'ho visto, è particolare quella radio, si vede che è roba degli anni 80. Già ho capito qual è. Sì, vabbè, anche quello è bello, certo. Vabbè, ognuno ne ha più di uno, più di due, più di dieci. Per cui, vabbè, comunque. Tutto sommato, Graziano non l'ha tolto, perché sono tutti uguali, quando è stato il paracchino sono tutti, tutti uguali, per cui basta tenersene i due, come sta dicendo lui. Ma allora io cosa devo fare, Graziano? Mi ha aggiunto tutto l'altro, mi ha aggiunto l'Odisi, e ne ho dato due anche, oltre all'antenna originale, ne ho dato l'antenna originale a mio nipote, che è molto da Carbonia. Si può immaginare, Graziano? Sta girando il microfono, ha girato tutto, ma guarda quanto sono stato scemo, gli ho dato l'antenna Game Master di cosa? 160 euro, originale, e dopo io me l'ho costruita, grazie, ma te lo immagini, me l'ho costruita poi, autocostruita, tipo la Game Master, sì. E quella che sto usando adesso. Vabbè, ma io mi avevo ordinato una base magnetica, bella mia, c'aveva anche dove la carica trasparente, si vedeva tutta qua, bellissima. Ho provato un paio di volte di era una bomba. Capita, la via sempre in mezzo ai piedi, è giunto uno in occhio, un amico mio. La bici mi si è incullato, l'ha detto, mi dammi cazzo la gimbara del col cazzicida, va, cazzo la gente in mezzo ai piedi. Qua va nuovo, amici, e ti l'ha girata. Vabbè, però sì, si sta dando quello che si rimanda, beh, certo, ma se pagando un fatto invisibile a voi, visto che era l'uomo all'uomo, non ne valeva la pena. Se ti ha dato i stessi soldi, va bene, così va bene, grazie. Quello sì. Vabbè, dai, vediamo se c'è Marco. Marco, aiuto, guardando stai. Marco, o sei al mare o sei a Prato, tu sempre così sei. O al mare, a Pratamona, a trovare la tua ragazza, oppure a Prato. Le ho dato anche una, le ho regalata a Luca Manicomio. Le ho regalato una radio, un microfono, tutte le antenne della macchina che ci avevo, fusta nera, che di Longhi Longhi, Studio 2000, tutto la sera, passa a casa e ti do giusto, è giusto e si sta buttando giusto. Cosa dice giusto? Sta per macchina, non è buon gubbi, e le ho regalate. Italia, ti ascoltiamo, anche bene. Hai fatto bene, grazie. Beh, sta andando a Luca soldatino, hai fatto bene a darglielo, così almeno si è attrezzato anche lui. Vediamo sull'Italia, cioè Nord Italia, se ci sei. Avanti Nord Italia, per la città di Sassa di Sardegna. Mi sento un attimo che giro l'antenna perché stavo andando in direttiva ma non era puntata correttamente. Sì, vi sento bene, segnale 579 Radio QSB, no, vi ascolto benissimo, dai. Stazione Gerri, città di Bergamo, A voi il cambio, a te collega in città di Sassari. Ok Gerri. Sì, si muovono per te, Giulio dalla città di Sassari, aspetta che do un po' di vitamine così mi sentirai meglio. Vediamo un po', così credo di riuscire a farmi sentire un po' meglio. In compagnia di Graziano e anche Gianni, che adesso te li mando avanti per salutarci una alla volta. Vai Graziano per Gerri in Bergamo. Chiama 7351 l'amico da qua, stazione Graziano, nonché Gufo Triste della città di Sassari, ti saluta. Avanti Gianni, ti manda avanti un altro amico, Gianni. Buonasera Bergamo, buonasera Giri, Gianni da questa parte, sempre Sassari in Sardegna, ben sentito, ben entrato, avanti. Vi ascolto tutti, Giulio lo ascolto fortissimo, 10-9-20, tu Gianni 8-9, Graziano un po' più basso ma tutto comprensibile, comunque ottima radio, dai, vi ascolto benissimo, poi magari mi dite come nelle vostre zone, qui si muore, pianura padana, oltre i 40 gradi oggi è impossibile stare fuori, io non ho mai provato fa molto molto caldo. Io vi lancio a Giulio, visto che un po' che è incantato. Ok Gerri, sì. Beh, anche qui non è che ci possiamo lamentare. Il caldo è abbastanza alto. Siamo intorno, anche noi intorno ai 40 e qua. Poi questo è il momento più critico, l'ora più calda, per cui si soffre, si beve continuamente acqua, non birra, acqua. Per tenerci sempre svegli, se no ci viene anche sonno. E va bene, sì, il discorso è questo, siamo in piena estate, per cui dobbiamo sopportare il caldo, lo dobbiamo sopportare. Mi sta venendo un segnale poc'anzi, non ho capito se era per me o se era per Gianni. Ci dispiace darmi un quadro capo per cortesia, grazie. Per te Santiago 9, Radio 5, avanti. Ok Gerri, ma stai andando in direttiva, stai andando? Io ho avuto un dipolo autocostruito, un dipolo guarda del tipo Game Master, però autocostruito, non è l'antenna originale Game Master, è un dipolo autocostruito da me ed è anche molto basso come altezza, ce l'ho ben terrazzo, per cui Sì, è alto, perché è lungo 7 metri più o meno, però è fatto dal pavimento 1,20 m di tubo, niente di più, per cui non è così diciamo performante, è una cosa autocostruita, comunque è già tanto per dire di ascoltarmi. Sì, avrei la possibilità di metterlo in una contrapposizione, il che significherebbe metterlo di almeno 6 o 7 metri più in alto da dove si trova adesso, dove appunto prima avevo la mantova tubo che ho tolto, perché mi dava fastidio la notte quando c'era vento e sentivo i radiali che fischiavano, per cui ho preferito toglierla e mi sono appunto autocostruito questo dipolo verticale e ciccia, e va bene così. Bene, bene, avanti Gianni, parla l'amico Jerry. Adesso l'amico Jerry nell'ultimo passaggio non l'ho copiato molto bene, anche perché ci sono altre modulazioni sia in FM che in banda laterale, quindi l'ho copiato un po' confuso. Sì, comunque anche qua poco fa nell'altro passaggio si è arrivato con un picco di tra i 7 e gli 8 come Santiago, la radio Super 5 e niente, qua questa postazione la radio che sto utilizzando in questo momento è uno Super Jupix 2000, microfono ZG preamplificato e un grande boomerang, quindi il minimo indispensabile, il minimo sindacale. A livello di meteo qua siamo abbastanza caldi, adesso questo pomeriggio si è alzata una leggera brezza, noi abbiamo il vantaggio di avere il mare qua vicino e quindi si è alzata una leggera brezza che non fa solo che piacere in questo momento. E niente, quindi ti rilancio Jerry, avanti. Sì, ti ho copiato, all'inizio no. Adesso purtroppo la programmazione è scesa e lo sento più basso, sì, va bene, diciamo che la prima parte del passaggio non l'ho copiato Jerry, invece la seconda parte sì, però la programmazione è scesa, purtroppo è scesa, infatti l'amico qua, la Graziano, non mi ha chiesto se è risparito dalla comunicazione, ma evidentemente non era favorevole in quel momento la propagazione, soprattutto per la parte dove abita lui. Va bene Jerry, comunque mi fa piacere ascoltarti e io ti rilancio ancora, vediamo un po' se in questo prossimo passaggio sarà meglio ascoltarti. Avanti Jerry ancora, Giulio da Sassari K. Sì Giulio, anch'io ti copio molto. Faccio molta fatica adesso, 7-3 a tutti e niente dai, spero di riascoltarvi alle prossime, perciò 7-3 a tutti e buon quasi a tutti. Ok Jerry, ti ringrazio anche per il collegamento, ci mancherebbe altro, io ti saluto, 73 a te e a QRA, ti vado avanti gli amici per salutarti, sperando di riascoltarci molto presto, magari in condizioni ancora migliori, sì in effetti c'è un po' di QSB, però purtroppo è normale, è anche normale, quando si tratta di propagazione non è sempre bella limpida. Comunque io ti super saluto e ti mando avanti Gianni per i saluti finali. Avanti Gianni, grazie ancora Jerry, avanti Gianni per Jerry. KK, ok, ricambiati anche da questa parte, 73 anche da questa stazione, Gianni, buon proseguimento di giornata e alle prossime modulazioni, ok? L'ultimo passaggio era un po' confuso, ti ho copiato un po' così perché ci sono altre modulazioni sotto e quindi comunque sono riuscito a tirarti fuori. Rinnovo i saluti e niente, qua da Sassari, Nord Sardegna, e ti rilancio l'amico Graziano. Avanti Graziano. Ciao, ciao Jerry, buon proseguimento di serata a te al QRA familiare, ce la risentiamo alla prossimina, ok, ciao. Ok, riprendo ancora io, saluto ancora l'ennesima volta Jerry, saluto ancora e grazie per il contatto Jerry, alle prossime, ci sentiamo. Bene, bene, il coronamento già l'abbiamo fatto ugualmente Gianni, anche se con un po' di difficoltà nella parte finale, però già l'abbiamo fatto ugualmente, dai, avanti Gianni. Sì, vabbè, c'erano anche altre modulazioni sotto, quindi io perlomeno sentivo anche altra gente sotto, c'erano altri segnali e quindi lo sentivo confuso, non era molto comprensibile, comunque dai, su vane, ogni tanto già riusciamo a fare qualche piccolo collegamento, che non guasta. Bene meda. Cosa volevo dire? Mi lamento, niente, dai, avanti grazie. Mi aspetto due o tre minuti, rientro subito Giulio, riprenditi. D'accordo Graziano, d'accordo, siamo qua, tutto orecchie. Vediamo un po', qualcun altro entrerà stasera, vediamo un po' se entra Gianni anche. Va bene. Stavo dicendo poc'anzi che Graziano si è allungato il cavo di discesa perché non gli arrivava dove ha la postazione, così è Gianni, poi me lo faccio spiegare da lui. A quanto ho capito stava provando un Innoit vecchio, ha fatto una giuntura, c'era una giuntura con un barilotto, una cosa provvisoria, infatti mi arrivava a Santiago 3. Niente, insomma, gli ho detto che l'ascoltavo molto basso sia di radio che di segnale, che probabilmente la causa di tutto ciò era dovuta a questo barilotto, a questa aggiunta praticamente di cavo. Da quanto mi è sembrato di capire, mi pare che ne ha strazzato tutto e l'ha aggiuntato manualmente senza nessun barilotto, in maniera provvisoria. E praticamente chiaramente il segnale è aumentato e sono calate appena appena le stazionarie in previsione di mettersi il cavo nuovo, chiaramente tutto intero. Ho capito, evidentemente quella prolunga, o ha il cavo che è oscillato con del luce, magari un pezzo di cavo vecchio, o perlomeno non erano completamente separati i fili, la calza con il polo caldo, e magari facevano contatto fra di loro, ed ecco il motivo per cui non usciva bene, sarà per quello. Comunque, sì, infatti si dovrebbe lui cambiare il cavo, ma me l'ha detto anche l'altro giorno che aveva necessità di sostituire il cavo. No, Graziano è già un anno che sta cercando di sostituire questo cavo, ma non è a voi che mi sembra di fatto questo vaporetto. Va bene, dai, non è un problema. C'è sempre tempo per fare queste cose. No, perché lui poi, sa cos'è? Che lui si sposta continuamente e avendo il cavo corto chiaramente non si può spostare più di tanto. Ecco cosa intendeva lì, perlomeno quello che mi ha detto l'altro giorno, tutto mio già. È entrato che stava provando l'Innoit e poi ha rimesso la CRT, ha detto vai, magari è un problema di radio, poi effettivamente si è accorto che c'era un problema con la giunzione, col barilotto, dai, e quindi probabilmente insomma il cavo non era ben messo. Adesso dice che praticamente ne ha levato il barilotto e li ha aggiuntati così in maniera provvisoria, e qua mi sta arrivando forte, quindi deduco che il problema fosse un falso contatto. Ok, sì. Aspetta che abbasso, che oggi c'è molto caldo, che abbasso un attimino. ecco così, 10 watt, 10 watt così già va bene ugualmente, mi sentivo a Bergamo con 10 watt, poi l'avevo aumentato qualche watt in più, ma siccome ci siamo toccati è meglio non esagerare con i watt. A me mi ha detto che gli arrivavo 8, 7, 8, considerato la, insomma, considerato qual è il mio materiale, quindi va benissimo, molto molto bene. Certo, va benissimo veramente, certo che tu devi capire che hai una posizione favolosa, tu dove sei tu, lì è, intanto la casa è alta, il palazzo è alto, primo. Secondo, sei in una posizione che è tutto aperto da tutte le parti, a 360 gradi, non hai nessun ostacolo davanti, perché tutte le altre case che ci sono lì, nella zona tua, sono tutte più basse della tua, per bene o male. O perlomeno ce ne può essere qualcuno che ha lo stesso livello, ma l'antenna poi fornisce da tutto, e dunque è in aperta direzionalità in 360 gradi, ecco quello il discorso, lo già. Per cui va benissimo così. Eia, vabbè, io poi c'è la collinetta lì, la collinetta lì della parte della zona di Sorso, che chiaramente per quella parte mi chiude un po', e poi vabbè c'è sempre il discorso di Monte Oro, però lì zona, dall'altra parte all'uscita di Sassari lì della zona per Itiri, cioè io Itiri, Usiri, Uri, cioè no Uri, Ossitissi e quella zona lì è a vista, quindi lì non ci sono problemi, è Sorso che c'è praticamente la zona qua di San Camillo, la collinetta qua che fa un po' da tappo, dai. Va bene, quello sì, può essere anche così. No, ma cosa posso dire io allora? Che sono praticamente sotto un monte Oro, e dunque, tra l'altro sono anche vicino in linea d'aria a Monte Oro, però sono in basso, sono sotto, è quello. Oltre al fatto che sono anche sotto Sassari, come livello, come attitudine rispetto a Sassari, io sono roba di 90 metri più in basso di Sassari, perché ti puoi immaginare, tu immaginati uno che è passato in alto, no? Se prende una rincorsa, la sticella la salta più alta, è così, è lo stesso discorso che ti voglio far capire io, se io sono sotto Monte Oro, sotto la montagna, a saltare mi viene male, ma se andiamo lontano, magari me ne vado, che sono io 300-400 metri più lontano da dove c'è Monte Oro, allora l'ho fatto meglio, perché ho una rincorsa, no? Mi sono spiegato in maniera un pochino così grossolana, o Gianni? Quello sì, ho capito il concetto. Sì, vabbè, anche per dirti, con Graziano praticamente siamo a portata ottica, e quindi Graziano mi risulta più vicino, perché proprio dove sta lui è proprio, lo vedo proprio da qua, quindi mi arriva forte anche per quello. Sono tornato, com'è adesso Gianni? Forte, un bel segnalone. Siamo 9.20, siamo a 9.20 e la radio è sempre Super 5. Ma questa è quella di poco fiammi. L'ho attaccato questo perché affermo la molto, capito? Giulio, la terra va bene? Benissimo, grazie, benissimo, non ci sono problemi. Poi grazie a lui, c'è una sono grande, c'è anche altro, oltre al fatto che da parte non c'è niente, tra te e lui arriva bene, c'è lo quello che arriva bene. È tutto all'esterno praticamente. Vede la zona tua, la vede Graziano, per così dire, cioè le antenne sono a visione ottica, per cui no, problemi non ce ne sono, Gianni. Sì, d'ottica praticamente le antenne si vedono, e quindi non ci sono ostacoli, vabbè, e poi io sia io che coso, che Graziano abbiamo il goffo e l'asinara a nostra disposizione a livello di apertura, quindi non ci sono problemi. 6 metri di palo da tirare su, per cui se invece qua un metro di palo si può immaginare dal pavimento 1,20 m e dal tetto la bobina dal tetto sforge sia no 40 centimetri, non più di 50 comunque, dal tetto, la bobina, tanto per darti un'idea, Gianni. Che poi tra l'altro, come ho detto poc'anzi, è nella parte bassa della casa, cioè dove c'è la piovenza del tetto, la parte davanti, perché da parte di dietro c'è tutta un 35%, un 40% di piovenza di tetto, perché andando dall'altra parte, poi tirando su il tubo a canocchiare che ho, che tra l'altro c'è tutto già predisposto, perché c'era prima la massa del tubo, ed ecco che le condizioni migliorano sicuramente, le prestazioni migliorerebbero per forza, obbligatoriamente. Va bene, dai, avanti, grazie. Sono attaccato lì noi, così lo faccio girare, capito Giulio? Perché poco fa stavo facendo male, invece tu mi sono accorto che era l'ADL, e ha distrazzato, l'ho rimesso, ma è volante, lo devo saldare, dopo quando spendo me lo saldo. Vabbè che provvisorio questo, ma vai che ci dice calma un po', questo caldo mi cambia tutto il capo intero. Ok, grazie. Infatti, ma l'avevo detto l'altra volta, l'ultima volta che ci siamo sentiti, ma avevo detto che dovevi sostituire questo capo, ma comunque piano piano. Va bene che adesso c'è molto caldo a salire sul tetto e insomma o lo fai la mattina presto quando c'è ancora presto, oppure lo devi fare la sera quando comincia a tramontare il sole, tanto a cambiare il capo già si fa in fretta, non è un problema quello, per cui solo a quell'ora si può fare, ma durante il giorno col solerone che c'è come fai a stare su, non si può lavorare, guarda. Io stavo cominciando un patriciano qua per di una camera a casa, ma mi sono pulito tutte le palmette, mi sono pulito con canna al mazzo e poi ho pulito anche loro il balcone, l'anta. Adesso le palmette gli ho dato anche la prima mano, gli ho dato. E l'anta gli ho dato stasera prima di pulitarmi praticamente, accendo la luce nel terrazzino. E non la prima mano, perché fuori non si può stare, c'è troppo caldo, grazie a lui, non fa bene, fa male, e poi non so come sono la gente, piano piano, le cose si fanno piano piano. Avanti Gianni. Sì, poco fa vi siete parlati sopra Giulio, tu e Graziano, e quindi niente, vabbè, vi siete sovramodulati. Cosa volevo dire? Adesso mi sfugge, vabbè. Mi sono distratto un attimo. Graziano ha attaccato l'inoite di nuovo. Già esce forte uguale, quindi era un problema proprio di farsi i contatti. Bene meda. Allora anche quella vecchia radio già spinge bene, va. Il segnale qua è abbastanza forte, quindi tutto OK. Io mi attaccato così lo faccio girare, capito? Faccio un po' questo, un po' quello lì. Prima quando c'era quello zodiaco, facevo un po' lo zodiaco, un po' quello, un po' quest'altro, un po' il vestito. Tu mi lavi a tutti i mesi alle bici. E allora l'ho voluto per quello, capito? Gli altri ce li ho conservati. E se no c'è un macello qua. Vabbè, quello sì, è chiaro, no, ma guarda, quello di noi è un bel baracchino però, rinoiti è un bel baracchino, io ce l'ho avuto un rinoiti tanto tempo fa, ce l'ho avuto, ma usciva che era meraviglia. Poi tra l'altro gli avevo abbinato il famosissimo microfono da tavolo autocostruito in legno, grazie, e usciva che era una meraviglia. Poi l'avevo dato in cambio di una tenda da campeggio, l'avevo data, e dunque me ne dispiaciuto, perché quello lì era il primo baracchino che avevo comprato, non era il primissimo che ho avuto, però era il primo baracchino che avevo comprato, era da stazione base, grande, con l'orologio, si metteva in funzione quando programmavo l'orologio, si metteva, si accendeva da solo, tutte queste belle cose qua. E c'era il microfono di legno, fatto di legno, come quello che facevo prima io, e funzionava che era una meraviglia. L'avevo dato, dai, ma non è finito a bue. Ti ricordi uno dei dreffe? Ce l'aveva russo ce l'aveva. Ce l'aveva un russo, tu sai, no, due o tre erano tre succi, erano tre fiera, praticamente ogni sillaba, sillaba era uno, l'iniziale di un cognome, no? Io l'avevo dato al russo l'avevo dato. E poi c'è anche quell'altra radio, ti ricordi quella che modulato un po' e poi usciva male, ti ricordi? Non mi ricordo il nome di quella radio, è buona di marca lo stesso, e quella non ce l'ho, cosa ho fatto? Quella lì è il presidente Unidem, il presidente, quello lì è bello, quello lì funziona bene, grazie a te, tu non sei trattato su questa, perché quello funziona molto bene. Funziona, e dunque andava benissimo. L'unica cosa è che non ha l'FM, però il banda laterale lo stesso funziona bene. E va bene, dai, non abbiamo gruppi, non abbiamo di che baracchini. Avanti Gianni. Alla fine ci sono in mano se la scelta. Signori, io devo andare, mi devo avvicinare a fare una commissione qua vicino per l'Eurospin, devo prendere la roba, quindi mi assento. Casomai ci sentiamo dopo, ok? Ok, ok. Va bene, Vitali, a dopo allora. Capito, realtà, quello lì è il presidente Unidem, e quello lì è di vecchia concezione anche, tra l'altro, e funziona bene. Oltre al fatto che è anche bella di figura, non è brutta di figura, è bella. No, quella è bella di figura, no, io me la tengo. E poi ci ho conservato anche quello grande, il Washington era, quello grande, il Fort Atlas ci ho conservato, pure della Ferrari che non mi ha messo il nome. Ce l'ho già, lui, allora li ho conservati, perché c'è il megapiego da mini vuoti, me li tengo lui a disposizione, viene a fare i buchi. Sì, è vero, non è che si debba fare tutto niente. In effetti è vero, bastano due, certo poi lo basta anche uno, ma uno per usarlo, l'altro per averlo in riserva. Io non ho testa, immagino una sciarata, cosa me ne vuoi se io burro, infatti no, non li sto più togliendo nemmeno, non li sto più togliendo, sto usando sempre questo, sto usando. Così ho questo, poi non avevo il tavolino, avevo pieno, non ve la rubo di niente, mi ho tolto tutto e mi sono tenuto questo, così almeno, quando non li vengo davanti non li tratto, pazienza, poi quando mi salta in mente già ci vuole poco a toglierli fuori, però non più di tanto comunque, non mi entusiasmo, a parte il fatto che non c'è più nessuno per questo, sempre quattro riate, non. Se non fosse perché c'è propagazione, guarda, non l'avrei nemmeno acceso più. Io accendo alle volte con la speranza di sentire qualcuno anche di propagazione, ma se non vedo nessuno, vabbè, siamo tutti quanti posti mari, siamo, nel senso che abbiamo abbandonato la frequenza, per carità. Ma è una cosa importante. Lo sapete, è una importante, dire. qualche aiuto che vuole entrare, non esce. Guarda che non stai uscendo, se vuoi entrare, dimmi. Aiuto, se vuoi entrare, entrami, siamo qua. Allora, negativo, stai uscendo una portante. Si intende puro fuoco questa portante. E dai, visto, avanti, prova di nuovo. Vediamo se ci sentiamo. Aiuto, Pellegrino, boh, prova. Sta uscendo sempre in apportante, è brutto pure perché fa e vabbè, sarà precisare un padrone questo malacchino, sarà precisare un padrone questo malacchino, grazie. E guarda quello che si dice, grazie a tutti perché fa meglio. E io sto uscendo con il PL tutto cucimmi la radio, sono saldato. Cosa può salvare? Beh certo, perché già sono già funzionano lo stesso, io lo credo. Ci vuole poco. Se non si vuole anticipare, se è saltato. Tu, il filo centrale, lo fai uscire mezzo centimetro più lungo del coso, del contatto del PL, no? Lo fai uscire mezzo centimetro fuori, anche se non è saldato, lo prendi e lo pieghi e poi infili il piede nel baracchino. E funziona che è lo stesso, a meraviglia, il contatto così è perfetto. Ho fatto così, se no dobbiamo affogliare i saldatori, saldarlo, già se la ti butto, prima di ritrovare a tutta la mano dove torna a saldare, la chiudi tu, allora non mi piace un sacco così che ha tutto l'arma a sensi. Già si può fare così, non vedo problemi, grazie. Anche io, saldando laggiù, lo biele, no, che all'interno, ti so dire l'antenna sì, è saltato, ma visto dell'interno non è saltato. Però c'è la differenza che il mio capo è l'H1000, sicché il contatto centrale, il filo centrale, entra addirittura a forza per PL e per il contatto centrale. Dunque non avrei bisogno manco di saltarlo, non l'ho mai saltato. Giulio, mi aspetta 5 minuti che devo dare le impegnative e andare in farmacia a mia moglie a ritirarmi le medicine e mi devo ritirare anche quello che non sapeva che oggi le ha portate. Già rientro tra 5 minuti, da. D'accordo, grazie, d'accordo, a dopo, da. Giulio, che sei? Sì, grazie, mi ero allontanato, dai. Ma se stai facendo cosa? Aspetto. No, mi ero allontanato e basta, niente di più. Gianni dobbiamo cavalcavia lì. No, Gianni è uscito, è andato in negozio, è andato a comprare qualcosa. Adesso che già rientrava, adesso non lo so se può rientrare. Dove c'è la postazione russo dicendo? La postazione su è la stazione, lo sai dove è la stazione? È il palazzo della Brubida, se non metti in divino la voce alla Brubida. È lì, è quel palazzo lì. Già mi sembrava che me l'aveva detto, allora è un bacio, già no, ma... così, sono andata a ritirarmi le medicine che mi dovevo ritirare, poi me le sistemo, a farmi la porta. Quelle che mi mancavano, l'insulina non era arrivata, io già arrivata. Ho capito, grazie. Io sono andato ieri mattina, ho fatto la terapia ieri mattina, ma sono entrato e uscito un attimo, ci piegano 5 minuti e mi mandano via subito. Una volta che ho fatto 3 mesi di terapia e andati a Dugnadi il pomeriggio alle 3 lì all'ospedale quando ho fatto le infiltrazioni alla spalla, al braccio, alla spalla, invece la clavicola, che facevano gli impulsi elettrici, non male battuta. No, io vado una volta a settimana. Io vado ogni giovedì devo andare. Mi fanno questa terapia e mi mandano via, ma in 5 minuti. Poi sono sempre il primo, quando iniziano a fare quella terapia, perché me la fanno sempre verso l'una, dai. Me la fanno. 5 minuti dopo, sempre il primo di tutti i ragazzi. Ma ve ne so una sciarada, quindi il bastone, che fanno tutti la stessa terapia. Io ci stavo una mezz'oretta, mi mettevo una finestra. Dietro una finestra davanti, poi ci attaccava questi fili con queste ventose e mi scaricava degli impulsi elettrici. E invece no, non ha funzionato, ma mi ha detto ci vuole l'intervento. E ha detto, ma chi me lo fa l'intervento? Ah, io non glielo posso fare. Ci prende la puntaletta con un altro, mi ha preso la puntaletta e mi ha detto, chi mi ha detto che non voleva responsabilità e non me ne ha fatto. Allora ho bisogno che mi ha andato. Io e quattro anni ho fatto educare per questa quella operazione della IA e quattro anni. Vabbè, mi iniettano questa medicina, le buone, quella le buone. Due minuti le buone, in tutto, e tutto per 5 minuti, oggi lì. E mi mandano subito a casa, niente di particolare, una volta alla settimana, ogni giovedì. A me prima di fare i impulsi elettrici mi ha levato le infiltrazioni, mi ha accabbato, mi ha levato un bicchio, l'hai fatta. Se ti metti il ghiaccio di braccio, fate scrac! La cartilagine mi sei consumata, no? Grazie a quando fate così, la cartilagine è consumata. Guardate che se ti si va a educare è capace di dare il braccio un po', non funziona nulla del giusto. Allora qua funziona un poco, però se si va a educare, probabilmente da voi non funziona va bene. Che uia! Non ce ne sono, sto pedi cibuni, non ce ne sono qua, ui, sarà pedi. E più bravi dicono che sia la Dalghero, ma mi pare i politici, no. Così è all'acqua di rosa, è buonissimo. La capisci che sono uno peggio degli altri, a carità, chi ci non vuole responsabilità, i dati non mi attesi, i dati lì sono attesi, grandi dirigia, chi devi andare si chiamava, dice no, bisogna spostare la data, ma vaffanculo, non bisogna che vi andato. E la voi, una parente di mia moglie è andata a Genova perché gli dovevano fare il trapianto, era. Il trapianto del miolo, mica è morta, mi telefona a Biucci da Genova, che è la cognata, che è morta, a te piatti. Purtroppo così, io sono cose ancora più gravi, grazie. Quando io fatto il trapianto del minolo, bisogna avere molta ma molta fortuna. Molta. Intanto bisogna trovare il donatore che sia compatibile. Ma non è facile. E vabbè, comunque, speriamo bene, la vita è quello che ti dice, grazie. Siamo fatti ma fai si cose muro qui, siamo fatti, ma chi va questa notte abbiamo fatto la vita russa, morimmo non si va a metà più. E uscì da voi di su se non metà più di lui, e uscì e grazie. Sono arrivata, era arrivata le poste qua alla Feroce. Ma cosa sta stato in carne va via? Non è mai la via, sono stata 3 anni, tanto è me, era giovane ancora, poverina, non la bastava di variare marito, che mi ha dato auguri, e ha avuto l'intervento il marito, per carità, e si è andata da prima del marito. Succede buonissimo. Succede buonissimo. E mi ammetto, veramente tu lo babbo di Marco. Marco che si sbagliava attaccata a bottiglia. Marco De Sì. Sì. Marco De Sì. Che trabagliava da voi da da agosto, da quando ne chiama, da Open France, che su, Maria Romabo, che andava a Dugnaghetta, Dugnaghetta andava a Itti, andava a visitare un frattetto, ma aveva 40 anni, minimo 15 anni di seguito, andava a visitare un frattetto, perché il frattetto era sempre malato, ma proprio di 15 anni, e Dugnaghetta andava a visitarlo, andava. Beh, allora sai cosa ti dico, è molto più maletto che lo frattetto, grazie, ma hai detto no, questa è la vita. Che non lo so, è in casa, mamma qui è la babbo e mamma è la più malata di babbo, infatti, e nostra mamma ha 52 anni, e babbo ha campato anche 15 anni, ha campato, non lo so se l'ha riavviato tre volte lo Giusanto, a me da davvero, ah, per carità. Purtroppo la vita è così, purtroppo è così la vita. Se uno solo fortuna, se uno nella vita ci vuole solo fortuna, a riuscire a campare, a venire all'età abbastanza avanzata. Oh, io. E il babbo lo faceva, il babbo lo faceva via 82, una via. Beh, mamma invece una via 95, ormai ci mancava un mese o una cosa del genere, sì un mese mancava, che morì in dicembre ed era nata in il 23 di gennaio, finché si può immaginare, ne manca un mese, e va via, 95 anni aveva anche avuto, e la morì era un anno e mezzo fa, un anno e 7 mesi, là, più o meno. Fare così come i russi, eppure non è così la canzona, però mi dispiace con quella parente di mia moglie, poverina già. Allora tra poco si manda via l'impiccione, sta zia, vabbè, con un marito, dopo tanti sacrifici dalle vostre a casa, in campagna e tutto. E la barra si ricordi, ma per la tara, c'è un figliolo tra la barra di figliolo, la venna è qui guarda e se non mi pare che ho soglia la ghina, boh. E io ci sono partito in Canada e lavora in Canada, per carità. Purtroppo è così, purtroppo è così la vita, grazie a la vita è crudele, io non ci ho sempre detto, in stessi casi la vita è crudele, veramente. Non è possibile. Allora, è che muore di mio figlio di 80 anni e peggio ancora, mamma mia, chi c'è ancora peggio? L'amore è il figlio che magari si muore nella notte, muore durante un giorno, ma così una bizzarri. Forse questa è la morte più bella, che non sa bene di niente e non soffri. Mentre invece la gente che soffre ma anni, e la buona muore, la buona che ha soffritto tanto, così è ancora meglio. Quindi è proprio un sacrificio enorme, veramente. Purtroppo la vita è così, grazie a cosa ci vuole fare. Sì, è un fratello, un infarto fulminante, 48 anni. Nella cucca si è pisato dalla poltrona che la rubottizia come se si è pisato e farà da piombo in terra. Un fatto fulminante, e per dire noi la né grazie nell'anno, era mezzo muscoloso, a chi piazzava i botteggi fa li facciati, e si piazzava pure la sura. Un secondo va appunto, ma capizzato se lei. Hai visto questa è la vita, purtroppo è così, purtroppo è così, oh grazie. Sento 48 anni ancora era giovane, allora si sa, non lo so io. E qui va lui, la figliola va via. Qui va da tre figlioli. Messo in continente perché aveva trovato un lavoro boscaiolo a tagliare la regna nei boschi, no? Questa vita appaltatrice della forestale, la dovevo preso a lavorare, adesso non ricordo in che cazzo in Sida. E molti chi già, in a casa di prima chi già. No, quattro figli va, due maschi e due femmine. Purtroppo sì, è stato fortunato, è stato, grazie a un bel, non poco, un bel defusionato, purtroppo la vita è... La vita è un bel crudele, un bel fenomeno, non poco, un bel... A chi qualsiasi bastone, buca, cruce, una sofferenza enorme, sì? Quindi da vestini che sono sempre malati, che sono sempre soffrendo, ma, dai, e diventano vecchi, e tutta la vita malata. Ma a cosa serve una vita del genere? Non serve tutto a niente. Purtroppo è così. Sono così, avevo fortuna, e la vita tua, solo fortuna, grazie. Non è di... Non siamo tutti tanti uguali, purtroppo non siamo tutti tanti uguali. C'è gente che supera gli anni 30 anni e c'è gente che muore quando ti sino ancora. Dico, non te ne fai un mazzo, fai sacrifici, a fa. Sapete quando invece di andare, sai bene, o ti farò un piccione o sai male, o fa male di tutto. Per carità, all'incontrario. Sì, ma che succede proprio così? Succede proprio così. E non vuoi che tu devi trovare tutta la vita, vuoi andare in pensione e non riesci a così simile. Poi... comunista non è un sistema vero, non a te. A Romaco, le grandi persone, magari quelli che sono un po' di anni, che non rimane, invece, la gente che sa che si è accorta addirittura l'anno prima di andare in pensione. Fu una bomba, una persona me l'ha raccontato, dice che effettivamente domani sei andato in pensione e è morto oggi, ma lì no, non è possibile la verità. Non è possibile. Che cosa sta facendo? Uno che travagliava in comune, nel nostro parco. Ma tu 3 anni ha fatto che era in pensione, sette domani è andato a ripilare dei muschi, a te piace. Purtroppo sì. Ma poi muore sempre di più bravi, grazie, sempre di bastone migliore muore. Chissà niente, delinquente non muore mai, chissà non muore mai, chissà di salita non fa uno a volare la voce, però se non vedi stanno di a volare la voce, però fai dici no, più male so e più scampa, ma fa sempre più male all'umanità, non è possibile, invece di bastoni seri, di bastoni uretti, chi si muore sempre giovani, non allora, c'è un gioco già, sì, a chi non lo vedo, ma è si brava se la butta, li delinquenti, li dava, lo più possibile li dava, per carità, sono bravati. Purtroppo le luci, prego da lui sì. Ah, io la salienza. Incontrato un amico che si chiama Gianfranco Secchi. A questi momenti io sono Gianfranco Secchi che è molto natalino e la Budi e lo mi insegna, ma non sa Edro. A chi il giornale io non ho seguito fotografia. Chi su quella volta mi si è curto da Edro alla banda, dico ma non sarà Edro. Boh, 64 anni, più o meno, c'è una cosa che conosco più o meno, ma dice dai, è la diritto proprio giovane passato la diritto da Eurospin, sono andato in giro a comprare un mesh e me la voluendo comprare un mesh, siamo visti e devo dire che non so qua va, si è detto che sono avuto questo incidente con la moto o se è un altro che fa così, tipo, non lo so. Scusa un attimo il telefono grazie. Ehi, va. Graziato. Ehi, Marchisio, tu sì. Attento, chi è che vuole Graziano? Ora. Chi è? Ciao Graziano, tornato sono. Ehi Giulio, sto pensato. Il telefono gli ha squillato. Ehi, ehi. Bene, bene, oggi Marcolina non si è inteso, no? Vuol dire che è andato al mare e non si è portato la radio. Sicuramente sarà al mare e sta pranzando. Bene, bene, ha fatto bene, ha fatto bene. Boh, adesso vedo di organizzarmi, vediamo se riesco anche io a andare a farmi un bagnetto. C'ho roba di ziccane che non andrà mai. Quest'anno, speriamo che vado qualche dì, perché non la posso prendere molto il sole, capito? Ho capito. Già fa bene, dai, un po' di aria di mare, fare un bagnetto rinfrescante già fa bene, dai. Basta non si accabba sole, giustamente. Lo so, però sono diabetico, dunque sole non li brucio più, sai, perché c'ho anche male, prendo un sacco di medicine, capito? E andando vado, mi faccio un bagnetto, ci sono un giorno e me ne vado. Di più lo facciamo. Ehi, ma va bene anche così, mi non è che bisogna. No, non è come te prima il chiamavi di Taradino. Tu Taradino perché abbiamo avuto tutto un mese a mare, in campeggio, via Cimano, Alghero, dove c'è la Salla, il campeggio vicinico, che c'è a fianco, più privato, ci abbiamo tutto un figlio, pure 3 mesi. A tre tempi, già lo conosco quel posto, ci sono stato diverse volte alla Stalla. Anche lì, o se no hai Cimano, non dove entri all'inizio, giri dove in quel blocco, in quel piazzale, e passavo dove abita il pastore e mi facevo entrare un cancello dal pastore. E andavo lì, era più isolato. Nelle dune facevamo il giro delle tende, quasi quanti ai bastoni, a voglia di niente. E tutti i genti, tutti belli organizzati, cucina, bagni, tutto, bagni chimici avevamo. Tutto, c'avevo il carrello allora, a voglia di viaggio, pure un camion. Insomma, dai, quasi un trasloco in piena regola, dai. Non ci mancava niente, avevamo la TV, la cucina di casa, quella a 4 fuochi con il forno, facciamo il forno, e a rucco con il barbecue, e tutto via, abbiamo i generatori di corrente, tutto ciò avevamo. E non mi mancava nulla. Arrivieri in casa, solo di giungere un camion, il furgone o in tenda. L'imbarazzo della scelta. Ehi, dai, un piccolo accampamento, dai. Ehi, poi ci divertivamo, un greppa, giocavamo a pallone, a bocce, poi abbiamo l'acqua scooter, andavamo a piccare un gommone, a voglia divertimento. Immagino, vabbè, adesso ci ammazzi un montone di gosi e quindi soprattutto la sicurezza economica, poi vabbè divieti, controlli, guide che dacio, insomma stesse cose non si vuole più fare, quindi di conseguenza non è più come te prima, là. Ma io molte volte lavoravo, invece di venire a casa mi andavo a rubampiglio la sera, quando entravano la sera, la notte, e poi una cosa si ci andava a travagliare, capito? Facevo come che era a casa al mare. E la stessa cosa, perché non mi mancava niente in mare, capito? Ci avevamo tutto. Sì. Bene, beh, se andavo a travagliare si bacia direttamente dai ghivi. Allora non faccio bruci, ma lui si stava bene. Allora non c'avevo i malanni che ho adesso, aveva bagno di abete, 4 insuline alla D, morbo di Crohn, retroculito cerosa, tuberosi, mari. E ne ha due, ho capito anche bu. Vabbè, dai. Cosa volevo dire? Mi sta succedendo una cosa. Ma c'è sempre l'inuit attaccato, giusto? Sì, questo è un carro armato. Questa è bella come radio, c'è 40 canali sotto e 40 canali sopra. Il microfono è un'altra preamplificata che va da un 30 anni penso, quello è nuovo. Poi c'è anche l'MG70 con l'eco e tutto, e lo puoi abbinare qua invece, la navigata se ne butta la bassa. La soluzione più facile e più economica. Un tempo già mi ha pensato a saldare, a fare, a piagare, a mangiare, a brico, a giocare. Adesso non ho più buia, te lo sto dicendo, con il tempo me ne è passata la gana. E poi prima lo accendevo dalla mattina, tu sarai lì, sarà tutti. Quello se non ci parlavo era sempre acceso. Tra una cosa e l'altra mi faceva già la migliata, però se ne passa la buia, quando vanno lasciati è diversa la canzone. Capisco, vabbè. Entrano in ballo altre questioni più importanti, quindi certe cose rimangono indietro. È normale, è umano, dai, quindi non lo so. È normale comportarsi così, dai. Tu prima guidavo, vabbè, quando mi sono andato a rilassare della patente, questo imbecille mi ne ha tirato da dire tutto, se no la macchina ce l'ho sempre da guidare mia figlia, però prima il giretto me lo facevo a sedere, come la dici, allora ma qui cioè, già me lo faccio, però mi devo portare sempre in giro mia figlia, capito? Me le avevo fatte declassare la penultima volta e me le lagato la B e gli fa pagare la moto e l'ultima volta mi ne ha pigliato il riduzzo che si imbecille. Ho capito, ma dove è la motorizzazione? No, io da quando mi sono ammalato, siccome sono invalido, e allora la facevo, prima la facevo quando ero giovane al dispensario in via Mendola, alle patenti alte, perché io ho guidato tram, pullman, tutto mi ho guidato, e poi l'hanno cambiato lì all'ex Malicume, poi mi sono ammalato, ma vado in invalidità e mi fare tutto all'ufficio dove passano le visite gli invalidi per le pazienti. Il portoncino che c'è al Malicume sulla strada, lì. Ho capito, a Residio, dai. Dove c'è quel portoncino prima dell'ingresso alla sbarra, dai. Di lì. Questo imbecille le ho portato tutta la documentazione e mi ha detto e l'ossigeno dove l'ha lasciato, l'ha detto guarda che nella documentazione il fuglio c'è, e vuole ancora guidare, io sono venuto in testa e dove vuole andare, così mi ha detto e non me l'ha rinnovato. Ma carità, era sempre in giro, cioè purtroppo ce ne sono molte di persone del genere che insomma non se ne faccio che creare problemi e difficoltà agli altri, dai. E ho detto, ma non è che a me mi serve andarmene in giro, io a me mi serve la macchina, la uso in effetti, la uso la nuova nuova, sempre in garage, come se la dibocca di internet, né YouTube si sarà cuccata subito, nuova, come il centro della negozio, perché io la trattavo bene la macchina. Poi ha sempre dormito in garage, in strada non era sciatola. C'era il bastone, lo stesso nuovo che ci hanno buttato giù. C'era dopo, poi scendeva nel negozio, la macchina si è morto. Il filo stesso, un vinelli, tutto venduto, solo che me ne vuoto, un carrello. E poi rimane gittato così, mi la giù venduti. La macchina quella l'ho venduta e ho comprato l'altra più piccola per perché quella la punta mia figlia dice che il Maruvio lì se sta sottoperto non c'era buona la persa. E ne ho comprato una più piccola con il cervoferto, la Twingo, questa portata, la signorina, la mi porta lì con quella. Ha già compreso, dai. Dai, comunque già non sei a piedi, dai. Bene o male, già c'hai ancora il mezzo, c'è anche la possibilità di spostarti. Sì, ma c'è anche l'altra mia figlia, c'ha la C2, lo stesso si porta pure lì. No, per quello non è problema. Poi c'è anche l'altra mia figlia, c'ho tre femmine io. E vanno quattro con il cane l'ho fatto sopprimere anche se era ammalato. Femmine. Ce le hanno tutte e tre la patente le macchine. Ehi, sono così che dico la gatta, hai detto anche io, te? No, io da quando mi ho messo i cani, mi sono ammalato, per non soffrire l'ho fatto sopprimere, tanto era malato, era anche nei piggiurelli. C'ho la tartaruga piccolina, tanto il bugno della mano, e due uccelli, gli spettrini, cosa si chiama, chi sa che è il fregantello, diamantini, e poi il cane non ne prendo più perché è un travaglio, lui deve scendere giù ogni paio di ore, no, basta cane, ne ho avuto due in casa e due di mezz'ora, quattro, oh basta. È un appento come tuo figlio lui. È un appento, chiaramente bisogna stargli dietro, e quindi insomma comporta via un po' di tempo, però anche loro contraccambiano, però è sempre un impegno, dai. È un impegno, se te lo prendi lo devi trattare bene, da me già era meglio trattato, l'ho rasato, l'ho portato a rasare, tu ho preso anche la macchinetta, l'ho rasata mia moglie, mia figlia, era sempre bello pulito in ordine, e tutto quanto, la saccuccia, materassini, io non avevo poco buffato, ma lì, ha giunto suato, cosa ne posso, no, è un impegno, non fa. Preso di malato, mia moglie fa l'asma, e dunque non è che la gara di mucca a passeggiare un cane, ma io che andando al negozio che torna a bocca a bicca. Buonasera. Ciao Marco. Buonasera a tutti, sono appena tornato dal mare. Sono entrato a fare un saluto perché tanto devo mettere mano ai fornelli. Ciao Gianni, ciao Graziano. Non so che ci sia, Corix per me, dai. A da voi. Ok, riprendi Gianni. Ma oggi Marconi in radio non te ne è portata presso. Sai cos'è già? Quando l'ho tolta ieri, praticamente il filettino rosso si è staccato dal fusibile. La vitina del portafusibile si è staccato il filo e ieri non l'ho rifatto, quindi cercherò di ripristinarlo stasera, domani. Ok, se no l'avrei portato sicuramente, ok? A dopo. Bene meda, vabbè dai. Noi siamo qua ancora, non so per quanto, comunque, per caso ci trovi qui. Ok Marco, preparati il pranzetto. Così è cosa vuoi qua. Ma ci sta producendo. La macchina come l'ho messa su internet? Si è presentato questo qua, mi ha chiamato, come l'ha vista si sarà buttata subito, ma dice io a fare il passaggio in via Leadua e si sarà buttata. Ha visto l'occasione buona, poi se dormiva sempre in garage, figurati, quindi tanto di guadagnato, ha visto l'occasione buona e si era ricata subito. Ma la mia era nuova burro di motore, perché quando lavoravo facevo da qui agli punti e dagli punti a casa, oppure da qui da casa a Serralonga, a Platanova, e stavo tutto il giorno lì lavorando, in una falegnameglia. schiare zinca, fagli vedere che già a Sani mi fermava la fattoria, la burretta e al bar della sella e dritto a casa. Boh, basta. Poi la domenica me ne ho risabato, mi ci parava in campagna a Monteoro e rimaneva ferma la macchina in campagna e me ne è salito la domenica sera, capito? Un bel giretto là, insomma, dalla bacca all'altra. Vediamo se è rientrato Giulio. Giulio? No, Giulio deve essere ancora al telefono. Va bene. Marco sta pranzando. Ok, sta tirando un po' la rienta da queste parti. Veticello, non so da te, Grazia. Cosa? Che qua sta tirando un po' d'arietta, si è alzato un leggero venticello, non so se è dalle tue parti è lo stesso. Sì, c'è la vetrata della veranda aperta con la zanzariera e la tenda abbassata. È vero che ci sta muovendo la tenda, c'è venticello e meglio, almeno rinfresca tu. E oggi già fa meglio, dai, rispetto a ieri, l'altro giorno. Vabbè che fai la burufogo nella zona di Sosso. È vero, anche quello. Al telegiornale oggi ho sentito alle 13 che da lunedì fa di nuovo quel caldo che ha fatto ieri avanti ieri. Mamma mia. Che bello. Mamma mia. Io vi dico che c'è così. E che da voi... Adesso magari, non so quando, però mi ricordo che se gira a maestrale va a Scirocco, cazzo, bacini subito i fuochi. Io in campagna l'ho fatto vedere a mia figlia, come si taglia l'erba, l'ho preso il decespigliatore più leggero, e lui ha dato per la donna, ha dibattuto in introduzione, e il bugiardo mi ha fatto tutta la campagna. Vici là, andave. Perché determinate pulizie vanno fatte, se no se succede qualcosa di brutto, magari dai. Un giardino da noi, tutto bello tagliato, se non solo la mano, l'erba che si è accumulato e ha su buco. Vabbè, la mamma all'inizio di questo mese, non si voglia bruciare, ma giù in sé è fatto bruciare subito. E la mezzo secca, già, come l'ho acceso il fuoco, in mezz'ora si era magnata, non vi era più. E niente, quello stato con la pompa, tutto in giro, c'è di far chiaro, un buco, era controllato. E niente. Ed è a posto, adesso è bella tutta pulita, pianeggiante, non viene elma. Gli alberi sono portati ed è a posto. Eia, adesso non mi ricordo che c'è da quando scatta come si chiama? Il divieto di accendere le serpaglie, adesso non mi ricordo se a fine aprile o a maggio, allora non me ne aumento. Cioè praticamente sono da maggio sino a settembre, ottobre praticamente non si possono più bruciare serpaglie, a mano meramente se così. Da maggio, dal primo di maggio non puoi bruciare di fuochi. Vabbè, ma io era poco, poi lì c'è la fontana con la pompa, a distanza di buoni, fumo gli hanno levati, mi ha fatto un pochettino il buco all'inizio, poi non le ha fatto più perché era erba, sì, però era secca, là, tipo pieno, mi dici che vanno queste cose, che ne ridiri, lui lancia e ti sta attacca. Ho capito, gente come ti chiama, fuori a sacco, tipo fuori a sacco. Aspetta un attimo, che sì? Gianni, aspetta che sono sul telefono. Già sono con gli occhi. Che qua con lo speech. Io Marco entra e se devi entrare. Ah, tu sei già. No, io ero in cucina, ho sentito una voce che non ho riconosciuto, ho fatto un bip. Ciao già, oia. Sono per il Zoma, anche adesso mi ero rientrato dal mare, sto facendo una pasta veloce. Velox velucis. Ecco, chi è il volante di Gregisci? A Mutandocci. Comunque in spiaggia stava bene all'ombra, c'era una breccia leggera, ma è come in Tre a Sassari, sente il calore, proprio c'è una netta differenza, vabbè lì sei in riva al mare, sei anche ventilato, no, che non si muove una foglia, vabbè. Sì, vabbè, ma almeno tu ci vai al mare, io non ci posso andare, devo dire, c'è un po' di caldo, non posso andare da nessuna parte. Con questa gamba così stamattina sono dovuta andare a fare dei documenti per Grazia Deledda, al CAF. Se non ho trovato un parcheggio, ho fatto la mia farina per Grazia Deledda e l'ho gribbente. Mi sono dovuto appoggiare due volte al culo perché non riuscivo a camminare, mai l'avessi fatto a non prendere la stampella. Noi con Tia Paola vogliamo studiare il metodo per portare mamma al mare un po', che le piacerebbe, solo appunto che camminando sulla sabbia che non è uniforme lei rischia di cadere, più che altro di farla entrare in acqua, capito? Non è tanto la spiaggia, quanto farla entrare in acqua, in modo che se le cedono le gambe non affoghi, capito? Un coso, di quei salvagenti grandi gonfiabili per adulti, una volta ne avevamo uno così bello, in modo che lei si appoggi, naturalmente deve stare in acqua bassa, no? Almeno però si diverte. E qualcosa la inventiamo, dai. Vabbè, la rotonda, sai cos'è? Lei lo sta invalidi non l'ha voluto fare. Cioè non ha avuto voglia di farlo. Se no parcheggiavi proprio la rotonda sugli stalli invalidi, basta che ce ne sia uno vuoto, no? E lì già era più breve da lì alla spiaggia, vedi? Poi c'è la rotonda, devo parcheggiare nel vialone iniziale, no? Dove c'è il parcheggio regolamentare, perché poi in realtà appena svolti a sinistra tutto divieto, è di sosta e di fermata sul lato sinistro, tutto divieto hanno fatto, proprio dal ristorante che c'era lì in poi. Ah, vaga, se un casino stanno facendo, stanno portando i turisti a non fermarsi, lo sai, rotonda chiusa, i pettini come sono, un casino. E deve essere che Sassari campi molto di rendita allora, di altro, se si può permettere di far scappare i turisti. Va bene, poi sono stato molto all'ombra, oggi sole non ne ho preso, sono stato con la sedia all'ombra e poi il lettino me l'ho messo all'ombra, bello, giù mai mi addormento pure. Acqua! Mia Graziano, sempre grazie a me. Ciao Gianni, ben sentito a quest'ora. Ti sto parlando con un giunglo e sono andato in là sul telefono e con l'altro Gianni. Ah, ho capito. L'altro giorno c'era su Facebook, stavamo parlando di 27, ma sicuramente tua figlia ha scritto che il papo ogni sera entra. Tutti i paesi. E se tu vai nei canali dove non ci sono, noi ci siamo sempre su 10. Non dico tutti i giorni, ma ci noi già frequentiamo. Ma io già spazzolo, già sto parlando lo stesso. Mia, anche qua stasera con uno di Brescia stasera. Ho parlato io, Giulio, Gianni, questo Gianni qua. Niente, già sto chiacchierando lo stesso, però non è sempre che entro là, ogni tanto, molte sere non lo accendo perché non sto facendo cosa, ho visto un ritardo, capito? Era Bergamo. Buonasera a tutti. Avete parlato in due, è passato il profeta. fare, sei normale, sto usando l'inoizi. L'inoizi sta usando. Oh, come lo senti tu a Graziano, Marco? Beh, io regolando il volume su di te forte, forte, abbastanza forte. A seguire Gianni, Profeta e poi tu. Tu oggi anzi sei da salotto come modulazione, perfetta. Ma io posso anche alzare, non l'avete fatta passare, guarda così a vedere. No, no, va benissimo, io sento tutti comunque, anzi da salotto è più rilassante già, che non sparatisce, ma l'innoit, ma cos'ha il microfono originale? No, l'ho già passato, c'ho per una trentina d'anni, e un'altra l'ho appiccicato, gli dove dico prima ad alzare quel microfono che mi avevi venduto tutti anni. Come sono a parte, uno di questi giorni se non voglio gliel'ha dato, perché quello ci aveva l'eco, così è. Capa. E c'è il nuovo come quando me l'ha dato tutti. Io ce l'ho provato con l'altra radio, che ce l'ho conservata. Beh, se lo adatto a questo, così c'ho anche le cose, perché l'altro me l'ho venduto lo Zodia che con la camera ecco, l'MB4, l'ho venduto da poco. E c'è anche l'altra radio che ce l'ha l'ecco già al seduto, però pure mi ho sentito questo e quell'altra radio nuova che c'ho, capito? E uso questa e quella là. Via, via. Capito, e allora, dato che ce l'ho con l'altro microfono, gli faccio l'adattamento e lo uso con questo. Vabbè che già esce bene anche così, eh. Sì, è una bomba, esce forte questo microfono. Se ne ho voglia gliela dato, di questi microfoni non lo so se me ne sono rimasti. No, ve l'ho preso, o li avevo dati. Perché una radio l'avevo regalata a Luca Malecomio, l'avevo regalata una radio, tutte le antenne della macchina, insomma un po' di cose l'avevo dato, va. Tanto in macchina non me ne ho più messo. Ho già, non sono entrato oggi a ritorno perché ieri togliendomi si è staccato il filo positivo dal portafusibile, quello del Maxcom, quindi devo riattaccare il filo rosso al portafusibile. Ah, io ce l'avevo acceso, entrato, magari Marco rientrato accende, invece non ti ho sentito, tu oggi non la negata. No, no, guarda, solo quello mi ha bloccato, perché poi me ne sono accorto tardi mettendolo a posto, però già lo metto a posto, dai. D'altronde mi che esca bene di radio o metti il 3009, però poi devi smontarne, a parte che te lo possono rubare quando è fissato sulla plancia, da me non è a scomparsa, capito? Qui basta rompere il vetro, due galletti ed è rubato, capito? L'altro in valigetta, sta nel cofano, non vedi nulla, da fuori, lo monti al momento. Ok, scusate, la pasta mi si attacca. Vale pure, vale pure. Eia, e considera che c'ho il PL dell'antenna senza saldarmi, non mi sono così volante, perché stamattina l'ho staccato per passare il filo più in basso, per arrivare a terra, se lo faccio da a cavalletto non dovevi alzare il piede quando passavo. Adesso invece è arrivato a terra e non ho salvato e ci ho entrato così provvisorio. Copiata già! Eia, ho copiato, scusa, stavo rispondendo a un messaggio. Ma c'è la festa del Sacro Cuore, mi sa di andare. Ti fa un diretto, ti conviene, al fresco dopo, ma ancora c'è sole. Dove sì, c'è la festa, cantano, fanno, suonano. Stare in casa c'è troppo caldo, non fa. Ah, ti conviene uscire, vai, ti fai un giretto, lì magari dimmi una cosetta, trovi qualcuno sopra che conosci e ti prendi il fresco. Vabbè, in casa c'è più caldo. Guarda, sta bene, dai, si fa aperto. E c'è quel venticello e tira aria. Carta, sì, eia. Giulio, devo sapere se senti cosa. Marco, vabbè, bagnato. Col boccone in bocca lo puoi cattuvi. Ci sta zuffando con la pasta, buonasera, poco fa sono entrato ma evidentemente ci siamo sovrapposti. Ciao prof. Non lo so, non te lo so dire, non ho sentito nessuno. Olbia, almeno un po' di venticello sta girando, quindi un po' si respira, dai, non è... È ancora vivibile, dai, non è, no, secondo me è ancora vivibile questa temperatura. Sì, ma tanto il giorno con Lucchetto caldo in casa, lui, ma come faccio il condizionatore, solo che fa male, tuia. Che fa male, ti fa fastidio. Guarda, io ho la parte di casa qua che è esposta al sole da quando sorge. Qui essendo l'ultimo piano, sopra c'è il tetto catramato, quindi ti capisco, non so cosa vuol dire il caldo in casa. E quando entra l'aria c'è un fresca. Capagalla. Ma partigiano, che pensi che sto rispondendo un amico a te? Eia, ma dovevo dire una cosa a Marco, me ne sono dimenticato, vabbè, adesso se mi ritorno in mente glielo dico al prossimo giro, magari sta facendo un aglio e olio, vedi, un aglio e olio adesso già me l'avrei mangiata molto volentieri, avanti grazie. Non è male, allora, è buona, l'aglio e olio, la giovania da burù, adesso se ne mangiano io. L'aglio e olio è una di quelle paste che non mi stancano mai, dai. È semplice, è classica, è ad esempio buona. E allora, è veloce e duro, la salire a prepararla, ma è buona già. Io già la faccio, lo stesso senso, ma già la faccio, è buona. Anzi, mi sa che mi hai dato un'idea, mi sa me la faccio più tardi. Sì, vabbè, siccome anche a me piace parecchio, preferisco fare un po' di pausa, no? Cioè non mangiarla troppo spesso perché sennò poi mi burieggia, tra virgolette. E quindi faccio passare un po' di tempo, così almeno riesco a mangiarmela con più gusto, eh? Io ieri ho cucinato, stamattina mi ha giocato la paella da un esercito. Perché qua lo chef sono io e dunque me l'era rimasto una porzione, ma di mangiare dubizia e poi per fare veloce, secondo mia moglie ha preso un folletto già pronto lì al supermercato. E al secondo mi ha dato un pezzettino di pollo, ma un pezzaretto mi ha chiamato mangiato già lo stessatino con un assato, che era più buono del bollo. me lo posso immaginare. Sì, quelle cose veloci, dai, fate al volo. E vabbè, ogni tanto già ci sta, dai. Ehi, già lo vedo, no, qua cucino io, lo chef sono io qua. E dunque, mi curifeggiava a lui, a quando arriva a rimanere, sei vecchio. Buon appetito. Finita questa pasta aglio e olio, Marco. No, non è aglio e olio. Siccome io quando torno tardi non devo stare a fare sughi, coso. Allora, prendete ai funghi Knorr. Siccome sono due misere porzioni, io aggiungo 60 grammi di pennette, poi per correggere l'eccesso di pasta ci metto un quarto di dado, basta, poi ci metti a fine cottura un cucchiaio d'olio quando l'acqua si asciuga e parmigiano, e sono buonissime. Ma anche la pasta, la panna e il coso, cosa si chiama? Hanno la mano, la messa. Anche la panna è buona la pasta, è veloce pure. Gianni, cosa mi dovevi chiedere? Adesso è sopravvissuto al trattamento la camma. Sì, no, ma non era quella, vabbè, ok, dai. Comunque hai fatto il test. No, niente, stavamo parlando di pasta asciutta con Graziano e stavo dicendo che un classico evergreen era la pasta di olio. Eia, anche qua. Aglio, olio e peperoncino, nel nostro caso, ci piace la roba piccante. Anche una bella carbonara è veloce, noi vivuti si sopravaglio, no? E non hai mattessi. Sì, sì, io quando c'è la possibilità, chiaramente dopo, alla fine, prima di metterla sul piatto, ci metto una spolverata di prezzemolo tritato, che già è buona. È buona, sì, che saporisce. O se no, io mi preparo anche la rossa dopo, guarda. Io mi preparo il sugo per 2-3 giorni così, arrago una bella pentola, me la faccio e poi lo metto in frigo quando è freddo e quando la bella arrago mi dico al frigorifero. Bene, la provvista. Sì, dai, si fa così. Quindi Marco utilizzi quei condimenti, come si dice, quei condimenti in barattolino? No, è tutto nella pasta, sono paste essiccate, cioè pasta e condimento, tutt'uno, Knorr, ci sono anche di altre marche. Certo, non le puoi mangiare tutti i giorni perché non è sanissima, ma guarda, per quando torni cotto dal caldo, poi dal mare, si fa in 9 minuti cottura e mangiato, per dire. Parmigiano ce l'avevamo, cucchiaio d'oliva rigorosamente ce l'avevamo, voglia. Poi però c'è caldo qua, mannaggia, mi sa che me ne torno, dormo in spiaggia stanotte. No, pensavo che fosse quei preparati in barattolo, quei condimenti già pronti in barattolo da mettere nella pasta, però tu mi stai dicendo che è già praticamente tutto compreso anche di pasta, quindi niente, dai, ancora una soluzione ancora più veloce. E niente, vabbè, non ho già mai mangiato di cose di quel genere, quindi non posso esprimermi. Comunque andavano mattessi. Siccome poi il condimento cuoce assieme alla pasta, cioè la pasta cuoce nel condimento, no? Risulta come una pasta risottata, bella cremosa, bella, non so come spiegarmi, ma Gianni Rupiu non c'è ancora. Però adesso mi faccio le spaghetti dopo. Sì, comunque già usiamo anche i sughi pronti, oppure quando abbiamo più tempo, cioè che non abbiamo impegni, si può fare un sugo in casa. E che io so schiappa a cucinarmi già, io posso fare cose basilari, però piatti elaborati, un minimo elaborati no, assolutamente. Poi vabbè, se c'è un libro di ricette, seguo i grammi, seguo le porzioni pesate, i grammi di coso, i grammi di sale, magari te lo so cucinare anch'io, ma devo avere il breviario mio, un ricettario, come si dice. Schiappa! Don Marco, guarda, c'è un riso che è molto buono, non è della Canova, io lo prendo da vita. C'è un riso ai frutti di mare che è un bel buono, io cerco solo il peperoncino, ma me la fa. Poi ci sono anche paste surgelate, quelle mi fanno un po' più impressione, però questa almeno è privata di acqua, boh, non so come si possa considerare se è liofilizzata oppure disidratata, non so se ci sia differenza tra i due procedimenti, perché c'era la differenza. Marco, ricorda che quella surgelata ha meno conservato di quella che stai dicendo, perché surgelata la surgelano così e basta, non ne mettono niente, che il ghiaccio che tiene la conservazione, invece l'altra che prendi metto il conservato. Solo già che essendo roba secca, io pensavo pasta essiccata, Cioè che il conservante c'è è una cosa che è proprio secca. Praticamente il condimento è una polvere. Diciamo che il condimento sarà tipo glutammato, no? Tipo il dado, conterrà sicuramente glutammato. Ma non è roba che fai tutti i giorni, certo, se no. Per quanto comodo sia. Ma ricorda che la roba. Che la roba lì è stata fatta con conservanti, se no non durerebbe. Poi non è dura, non è cruda, perché se tu noti cucina subito, è precotta con la pasta e poi magari si indurisce e come la lascia asciugare, capito? Però tu dopo una mattinata di nuovo 30 volte. Ma questa? No, perché questa la devi far bollire, cioè le pennette qui 9-10 minuti devono bollire, anche di più. E poi non so, ci sono vari prodotti, ho visto anche che per il trekking ci sono dei prodotti umidi, vedi marche tipo Aptonia, le vendono al Decathlon, no, a parte che costano una cifra. Quelli sono per i fissati di trekking, no? Cioè lì è umida, lì i conservanti ce le saranno a furia dura, e quelle te le scaldi di solito o col sacchetto chimico, oppure le metti a bagnomaria nell'acqua bollente, no? Poi quando il sacchetto dentro è bello caldo, quando il cibo è bello caldo, apri il sacchetto e mangi. Ho visto varie recensioni e sono anche buone. No, sono qua, no, io di chissà bucaria non ne mangio. Me la faccio io fresca, a chi la sai mi va a cucinare. Sì, sul gelato prendo quei condimenti, arcelle, gamberetti, quella cosa lì. Ma io la pasta la prendo, la faccio io, la copro, la bollisco e poi e quello là lo usa a condire. Però l'aggiunta sempre gliela metto. Capito? Ma sono buone anche quei frigi così, però quella roba lì già la prendo anch'io, però la offro solamente quando è già tardi, capito? Se rientro a casa che è tardi per fare una cosa veloce, sono fumatichissimi, però non è che mi piace la fare. O se no preferisco me le vado lì a prendere e mi mangio un mezzo piattone di calamari. Marco stava citando le bustine da sopravvivenza, ragazzi. Vabbè, quello è già un estremo secondo me. Nì, Gianni, tipo le MRE, le razioni K, no, per i militari. Prima ti davano, posso sì, prima ti davano il famoso fornelletto col... quel fornelletto con l'Esbit, oppure Meta, all'epoca si chiamava Meta, ed era metalleide, era anche tossico. Erano quelle tavolette di combustibile bianco, no? E mettevi nella gavetta e scaldavi, no? Adesso le razioni, non so se quelle italiane o quelle americane o di dove, hanno il sacchetto chimico, no? Cioè tu metti la busta con la roba da mangiare sigillata in questo sacchetto, aggiungi 2-3 dita d'acqua, inizia una reazione termica, diventa bollente, quindi aspetti quei 8 minuti che il contenuto diventi molto caldo, poi apri e mangi. Mamma mia, facciali dai. Meglio niente, meglio, vabbè, stiamo parlando di cose estreme, quindi sono dedicate in determinati scenari e in determinate situazioni, no, non certamente per l'uso casalingo, che è anche la gobba. Sì, adesso con questa cosa dell'olio io mi aiuto a farmi, ragazzi. No, però stomaco, e mi usi. Io non sto mangiando nulla, sto mangiando solo frutta e pasta, ho mangiato la curia stasera. Niente, proprio nulla, non si può mangiare nulla, né carne. Dai, no, io mi ho mangiato a pranzo un bel piatto di pezzatino e un pezzettino di pollo. Oh, e insalata, pomodori, di brechi, di chi si piace a me. con un pizzico di sale e tu marettaggi, e poi mi ha mangiato due pesche, belle fresche. Io tutto il giorno che mangio frutta, l'ho mangiata stamattina proprio di ciliegie, ho preso quelle ciliegie a 5,90 da Moscardini. Ma con una cariaccia, no, la fianchi, di che si grocca, timoni, tutti dolci, vabbè, costano un po', però almeno mangio roba buona. Lì all'angolo di via Pascoli, a quel ragazzo, io ho preso lì quelle ciliegie lì, che io frigorifero, e dopo che sono ben croccati, vado di zocco, vado crack, e sono buone, sono pulite pure. Sono di Verona quelle lì, sono le ciliegie di Verona. Care sono, però si vuole mangiare roba buona, gli vi farà. Se vuoi mangiare la mondezza, gli avvini la mondezza, di barata, però non c'hanno sapore, è inutile che li compare, o no? E infatti, anche se li compare, li vedi di manco, guarda, non lo mangiano babò. E anche l'anguria, che ha aperto ieri sera, mia moglie era buona, buonissima, non era grande, e l'ho fatto pagare pure un mese, era buona. Infatti adesso ti puoi fare lì, poco ma buono, e io ti ripigio un bene, e ti sei piaciuta, non lasciamo lì. No, mi rabbiglio buona, infatti la migliorata non ne mangio la bisogna rabbia, non ne mangia nessuno, e sei gettato vicino, così è Gianni. Eia, vabbè io diciamo che è da un po' di tempo che non mangio più carne, ma non perché me lo sono imposto, mi è venuto spontaneo così, senza mettermi dei limiti, è da un po' che non sto mangiando carne, ti devo dire che no, la cosa non mi pesa, anzi, voglio dire, diciamo che per il momento va bene così, ho diminuito anche un po' di pasta rispetto a prima, anche al pane, io al pane prima rimaniamo un carretto, adesso sto cercando di mangiare di meno, anche pasta, sto cercando di mangiare meno pasta e di compensare tutto con verdure, un po' di frutta e cose di questo genere, per tutta una serie di motivi che adesso non sto a spiegarvi qua in radio. Comunque, devo dire che funziona, dai. Adesso diventi fruttariano. Fare solina alla zia di mia moglie. A poco. Sì, grazie. Niente, io pasta non le mangio. Io la mangio solo la domenica e basta. Il pane mangio questo panino e basta. Prima ne mangiavo tutto il panino. Tu, anche io ero così fino, mangiavo per il pane. Posso mangiare perché sono diabetico, quindi i carboidrati a me fanno male. Sono pure Marco parecchio cucciù, con i carboidrati, maniaco. Cos'è Ali? Buonasera. Buonasera, non fai manco fare il ciucuccio con i carboidrati, ho detto, che ti fa male al cuore, capito? Perché si agita. Il ciucuccio lo posso fare lo stesso, non con i carboidrati ma con i vermi, è buono in più. Allora va bene, visto, qualche cosa ti va bene, grazie a Dio. A un certo punto tu dovrai 3, 4, 5 al giorno, hai visto che ti fai anche il coso, a un certo punto. Diminuisci il peso, tutto, fai dimagrimento, fai piano piano, tipo ciclette, capito? Tutti spariti, grazie a Dio. Ciao Antonio, sì, ho sentito già, anch'io prima ero un grande divoratore di pane, grazie a Buru con la bacia asciutta mangiavo rubane, e quindi ero un grande divoratore di pane, no vabbè adesso ne mangio molto meno rispetto a prima, quindi va bene così per adesso, dai, mi trovo molto meglio, che ho fatto, ed è una grande differenza, ti ripeto, rispetto a quello che mangiavo prima. Ho detto Gianni diventa frutta. Sariano. Ma Gianni Gà, doppio Roma? No, no, tu. Conosci le cose, prima c'erano i vegani, i vegetariani, poi è uscita la moda dei vegani, adesso i fruttariani, poi è uscita l'estrema moda dei respiriani, che secondo loro camperebbero d'aria, no? Proprio. Aio. Guarda che, vabbè, tutti voglio dire, magari si incazzano tutti, c'è anche quello dei trombattoni, la verità, si è notato, anche in televisione una notte, quindi 3-4 volte al giorno noi facciamo Michael Jackson con i minorenni e siamo a posto. Ehi, vabbè, sì Marco, ho sentito, vabbè, siamo in questo momento dove tutto è una burrota, adesso chiaramente cazzo non facciamo altro che classificare le cose. Poi ripeto sempre che ognuno è padrone della propria esistenza e decide di fare quello che meglio crede. Poi a me non mi ha fatto in onda poi degli aggettivi, di rigosi, cioè di tutto quello che si può appiccicare, tipo pesce o adesivo, soprannome o che dà, a me non me ne ha fatto nulla. Se un certo tipo di alimentazione mi fa star bene, mangio quello che più mi aggrada e mi fa star meglio. Poi tutti questi fanatismi li lascio a chi già ha tempo a perdere, capito? Anche perché lì alle conferenze si facevano vedere, lì si mangiano solo frutta, oppure poi dietro si dovevano prendere capsule di integratori perché gli venivano gravi carenze, cioè in pubblico erano tipo fruttariani o vegani molti, no, questi che fanno moda, dico. Però dietro poi integratori a nastro perché carenze vitaminiche, carenze di... e lì ci si può anche ammalare. Ma a una fruttariana invece hanno tolto i figli o le figlie, le bambine piccole, praticamente le faceva campare con mele e acqua. Qualcuno si è accorto che la cosa non stava andando bene, era una che andava su YouTube o su Facebook, non fuori di testa. Marco, io non sono fruttariano, però l'ho fatto perché c'è troppo caldo, voglia di mangiare non ne ho e mi garbava a mangiare anguria, ciliegie, questa roba così, che rinfresca. Invece ieri ho mangiato una mozzarella con i pomodori, un po' di origano, un po' di sale e ho mangiato quello e basta. E sempre la frutta me la mangio sempre. Però la frutta non mi deve mai mancare, ma io sono di qui. Mi può mancare la carne, ma la frutta no. Sì, ma quello è normale. No, ma i fruttariani praticamente loro dicono di portare una dieta esclusivamente a base di frutta, cioè solo frutta, niente verdure, niente carne, niente carboidrati, niente grassi. Immagina le carenze che poi sviluppano. Ma il bello che queste, come questa donna giovane, no? Stava campando le bambine a mele e acqua, poi lì c'è stata qualche... Poi sai che quando sono piccole nello sviluppo devono avere l'apporto nutritivo, nutrizionale completo, e gli hanno portato via le figlie. Questa poi era una mezza matta, andava in giro scalza perché dice che era più naturale, nel video si faceva vedere anche con le tette fuori perché era naturale, l'uomo è nato nudo, e anche la donna a quanto pare, peccato che me la sono persa però, non l'ho vista. Marco, io lo vuoi sapere mio padre, il nostro fisico ha bisogno di tutti i nutrienti regolati, ma ha bisogno di tutti i nutrienti, compresa la carne. Non bisogna esagerare, bisogna regolarsi. Ecco, una volta che tu ti regoli, che diminuisci le porzioni che facevi prima, magari se mangiavi due panine, le mangi 20 su tutta la bambina come faccio io, la carne invece di mangiarti una bisteccola te ne mangi mezza, di pettina a pettine, però ha bisogno di tutti i nutrienti, poi ognuno va e fa ciò che vuole, non è che io gli posso imporre di mangiare quello che voglio io, però io ho fatto così perché mia moglie è nel palazzo, quindi tu puoi immaginare tutte le cose che noi abbiamo, tutti i programmi che abbiamo visto, filmati, c'erano nutrizionisti che parlavano, insomma qualche cosa l'ho sentita, dai. Per dire, mangiare il latte è sbagliato, mangiare il latte perché il latte che noi beviamo serve per fare ingrassare i tipi di cristalli. Noi dovremmo mangiare il latte di soia per stare bene. Però occhio che anche la soia quando è in eccesso è controproducente. Sì, a me se mi togli il latte, i latticini, tutti i derivati del latte, formaggi di tutti i tipi, guai, sarei morto senza latte e derivati. Poi vabbè, è morto, poi ti adegui, metti che insorga un'intolleranza, però sono contento di non avere allergie alimentari. Lo so, però ci sono studiosi che dicono questo, che il latte serve per fare, il latte che noi beviamo fa ingrandire i bisteti di cristalli, noi non dobbiamo avere quel latte, è troppo grasso per noi. Poi, vabbè, io l'ho fatta anche a Palazzo, l'ho fatta, sono dimagrito un bel. Però poi sono rilassato perché non ho fatto il mantenimento, è troppo costoso. A me mia zia si è messa in testa di dimagrire perché non si piace, è tutta una piega, c'ha le altre maniglie d'amore, c'ha le maniglie contro maniglie, tutta, sembra che ci abbia un salvagente intorno alla vita, no? E quindi vuole limitarsi nel mangiare, benché non sia una mangiona lei, no? Lei sa cosa fa, colazione non ne fa, cioè si beve un caffè e ha fatto colazione, a pranzo si mangia, qua si mangia un uovo fritto, un tramezzino, un pezzo di pane col formaggio e boh, però poi di notte c'è una fame da lupo e quindi si mangia quello che non ha mangiato a pranzo e a colazione. È sbagliato perché è proprio la notte che deve digerire, dovrebbe mangiare meno. È sbagliato, dovrebbe mangiare più a pranzo e meno a cena. E poi a quell'età lì cosa vuole dimagrire? Quanti anni c'ha la zia? 69, adesso non me lo ricordo, penso 69, infatti cosa vuol dimagrire? Sì, crepato. Marco, a quell'età lì i grassi si sono già formati, non ce la fa dimagrire, a una certa età si ha la cosa di ingrassare, però se ti sei regolare, tutti i miei soci li mangiavano con un cd, mangiavano un tizio di salata, un tizio di carne, proprio come gli uccidi, il grissino invece che il pane. Io, la verità, io insalata ne mangio poca, perché io mi sazio col primo, se avete notato magari faccio un primo più abbondante, prendete piatto unico, no? E quindi all'insalata non ci arrivo, assolutamente, anzi ne dovrei mangiare di più perché sono fibre, vitamine presumo anche, non so se l'insalata abbia molte vitamine o no, insomma. Frutta lo stesso poca perché alla fine i motivi sono quelli di prima, mi sazio col primo, stomaco piccolo e poi non ne mangio altro, non mangio altro. Io invece faccio il contrario, mangio insalatone di pomodori, ciliegina, cetrioli, cipolla e via dicendo. Ognuno ha le sue abitudini. Ritornando al discorso, come qualsiasi tipo di fondamentalismo, fanatismo, non fa certo bene, non risolve i problemi e poi non fa certo bene a nessuno. Poi lasciamo perdere che dietro i grossi movimenti così ci sono altri interessi, quindi poi vabbè, basta farsi un giro, farsi le proprie ricerche, estrapolare le informazioni, sì, insomma, si si viene subito, insomma, si capiscono subito un sacco di cose. Chiaramente i cibi raffinati, i cibi lavorati sono cibi morti e quindi praticamente sì, il corpo li assimila, vabbè, però alla fin fine è giusto assimilare cibo vivo, tra virgolette, nel senso che non è un prodotto lavorato, raffinato, tipo come se può essere la verdura, la frutta, gli ortaggi, e sta sicuro che non fanno male, anzi, tutt'altro. E l'organismo ci mette molto meno a lavorare, poi entrano subito in ciclo e le energie sono subito a disposizione per quello che serve. Al contrario, tutta la roba lavorata, raffinata, praticamente è un carico in soprattutto che mettiamo a tutta una serie di apparati che abbiamo, quindi non vi sto inventando niente, non vi sto dicendo niente di nuovo. Comunque, ripeto, qualsiasi tipo di fanatismo, di qualsiasi argomento si tratti, cioè, non fa parte del mio bagaglio culturale, dai. Ben detto. A cosa stavo pensando? Vabbè, mi verrà in mente. Gianni. Ah no, dico, questi che fanno queste mode, vegani, fruttariani, respiriani, mi pare che è tutto per vendere libri, per far soldi alla fine, i gonzi ci vanno, è bello che sono convinti di quello che dicono, come i terapiatisti d'altronde, io non lo so. Adesso praticamente non devi credere più a niente, a nessuno, perché praticamente tutto è il contrario di tutto, tutta la menzogna, cioè la verità mischiata con le menzogne e viceversa. A chi credere? Guarda, c'è l'altro giorno su internet, stavo leggendo di questo imprenditore che ha fatto un'operazione commerciale, insomma, tra l'altro manda in onda un programma su determinati canali televisivi, questo tra l'altro non è neanche un medico, questo è un giornalista, insomma, è un tipo ricciolino con gli occhiali che insomma ha scritto questo libro, lo sfacciano come una sorta di intitolato Vivere 120 anni, e praticamente questo qua praticamente ha fatto una sorta di investimento sia con il libro che poi con queste campagne di informazioni attraverso determinate reti private. Praticamente spacciandosi come chissà che cosa, no? Praticamente il solito guru, no? come l'hai chiamato tu poco fa, e quello è uno dei tanti, e questo qua giustamente ha le mani in pasta e un sacco di cose, tra l'altro non so, ha avuto anche già problemi in passato con le istituzioni, quindi come ben vedi c'è un sacco di gente che qua approfittando della buona fede della gente praticamente ci sguazza, capito? Delle le sue diete e devi andare al suo negozio a comprare, già te ci lo conto. Sì, credo sia Lemme. Io non l'avrei fatto parlare in TV. Lemme, vai ai negozi che sono aperti a comprare la cosa, che ti grema, 50 euro messi con due bustine. Sì, sono tutti, io Gianni, sono tutti imbonitori, come c'erano gli imbonitori nel Far West che vendevano quelle brodaglie da bere, c'è un modo di dire anche per quelle fesserie, no? Che fanno tutto e non fanno niente, snake oil, olio di serpente, tutte giabidure, tipo le creme di Vanamar, che mi... Imbonitori sono, a vendere, a far libri e a fottere gli altri, scusate il termine. Gianni, vai, doppio rum. E vabbè, in mezzo a queste persone qua ci sono anche le cose che fanno bene, per dire, l'olio 33 pure, per provare. L'olio? 33. Oddio, mi cogli impreparato. Ma da olio alimentare, spiega. No, praticamente è un olio che fa bene praticamente a raffreddure, mal di gola. dei respiratori, si guarisce un sacco di roba. Oh, non... poi mi documenterò, dai. Però troppi ne sto vedendo rimedi miracolosi su internet, ogni tanto ne esce uno. Questo rimedio miracoloso, aspetta, cosa fa? Previene il cancro, sì. Ma... vabbè, ne spuntano come funghi queste cose qua. Bene, dai, riprendete un attimino, che caldo che c'è qua, ne ho le scatole piene. Voglio avere freddo, voglio che sia inverno, gennaio possibilmente. Basta, riprendo io così vi salto che qua chiudo, subito devo farmi l'insulina. Ok, ce la risentiamo, ciao Gianni 2, ciao Marco, ciao che è l'ascolto. A domani se coincide, va, ce la risentiamo, rilascia a te Gianni. Ciao Graziano, dai, ben sentito, grazie alla chiacchierata e ci aggiorniamo nel prossimo, dai, mi raccomando stasera agli olio, ok? Buona serata. Ok, ok, mi già è andata a prendere il spaghetti perché c'ho solo bucatine e mappette. Ed è andata a negozio a prenderli. Ok, ciao Gianni. Ciao, grazie, ciao. Aglio, peperoncino, grazie. Ehi, è già lo vedo. Ma tu mi dato un barbecue nuovo, più manda chi l'ha cosa frasegato. Io faccio fatto l'olio santo, mi ho coltivato io i peperoncini nella pianta, adesso che si sono essiccati, li ho presi, li ho messi a bagno nell'olio e devi sentire come ne metti una goccia, oi oi. Ehi, buono, buono, io adesso io gli ho imbalato i frutti già così. Va bene, ciao Marco, ce la risentiamo. Eia, ciao Graziano. Buona cena, buon tutto, alle prossime, dai, ci sentiamo. È quello lì, ma quando mai quello chef, quello pelato, non so sia Bastianice, va a fare il garante lì, il presentatore della roba del McDonald's, ma quando mai? Cioè, o parliamo di cucina pentastellata o di roba fatta col piccolo chimico, se lo poteva risparmiare. No, a proposito di cucina, l'uso, raga, io sono andato a portare il cane, mi faccio da mangiare adesso perché io non mangio niente, sono aiutato. E porto il cane, e ho mangiato un po' di anguria, mi ho bastato quello, però sono troppo accaldato. Io già, e anche io qua, adesso mi sciacquo. Da quando sono entrato le docce non funzionano a Platamona, faccio una doccia per levare il sale dai capelli soprattutto. Ok, dai, ci sentiamo già, dai, buona serata, buon tutto. Ciao, ciao, ci sentiamo, dai, buona continuazione, ciao anche a te già, buona serata anche da ascolto, tanto so che sono tutti quelli di Burro, no, che cos'è. Ciao, ciao, buona passeggiata. Ma Marco, stai andando via anche tu? Ma potrei, sì, ma possiamo rimanere appena appena. Naturalmente prima di fare una doccia devo sciacquare tutto rigorosamente, sempre pinne, maschera, attrezzatura varia. Non mi va che il sale si rosichi tutto. E va bene, poi analizzerò i filmati e... perché non so appunto come sia, ne ho fatto uno spezzoncino dentro e fuori dall'acqua in riva proprio per vedere, diciamo che per il prezzo è grasso che cola, dai, non è nemmeno lontanamente paragonabile a una GoPro, presumo, comunque per il prezzo che ha mi stanno dando la Ape Man 4K di nuovo 39,99 per gli interessati. 40, dai, sempre il solito giochetto per dare l'illusione che si stia risparmiando qualcosa. Meglio, più se ho i soliti accessori, il telecomando, comunque è comodo, è veramente comodo trasferire i filmati tramite wifi allo smartphone o al computer, ma il mio non ha wifi, il mio portatile. Ho oppure tu vedi in diretta quello che vede la videocamera e puoi scegliere con lo smartphone, quindi a distanza, se scattare una foto o fare il video. Vabbè, cibo da mensa e comunque mi accontento. Già va bene, già va bene. Già va bene per quel prezzo lì, figurati tu. Cioè, quindi non ci sono problemi. Oh, se devi andare vai Marco, nessuno, cioè, figurati, non voglio trattenere nessuno qui. Cioè, no, se devi andare vai, non ti buoni problemi. No, no, se devi andare tu magari a cena. Sì, io tanto la nottata è lunga, io prima delle 3:30 non piglio sonno, forse anche più tardi. Lunga la notte, mamma mia, oggi mi guarderò una sfilza di telefilm, se non c'è niente in TV, i soliti telefilm, ne ho anche le tasche piene, bisogna cambiare serie, però serie belle, belle, proprio leggendarie, poche ne fanno. Cos'è sto rumore? Un pidigottero sta passando. Sarà 118, lo sento anch'io. 119, buonasera. Beh, Marinus. Ciao Franco, ciao anche Gianni. E ciao a tutti gli altri che non ho ascoltato. Avanti fra. Eia, adesso mi cambio nome, mi chiamo Franco Condor, d'ora in poi, Franco. Va bene, là, Franco Condor, va benissimo. Avanti Gianni. Eia, l'elicottero del 118 è passato anche qua sopra a casa, dai. E guarda, sta atterrando qui a Ottava, Oh. Sì, giallo è. La parte, nella zona di Sassari Alta, zona via Roma, cioè in quelle zone lì è adesso. Qua sta girando uno giallo, cioè in zona qua, sta girando. Si stanno tentando le antenne di Cibimi, stanno guardando, segnando, prendendo nota, dice questa la butta giù, questa pure. Basta pagare la tassa. No, adesso è salito in zona Vaggiara, no, è del 118. Qua c'è uno giallo che sta girando. E tanto sono due, perché quello che sto dicendo io è salito zona Vaggiara. Ah, pompieri, ho 118. 118. Allora, il mio è 119, avanti fra. E poi sul giornale avevo letto che giorni fa c'era fuoco verso Sorso, non ho capito bene dove esattamente. Ed era un giorno molto caldo, sicuramente qualche babbeo, o ho buttato qualche sigaretta o ha messo fuoco. Questa zona di casa è stato, ho sentito, capito? Ok, io sono solo per salutarvi, dai, adesso sto chiudendo. Ciao Fra, ciao Gianni, a domani se consigli, ciao. E io, ciao Marino, ben sentito, ci sentiamo alle prossime, ciao, buona serata. Ciao Marino, buona serata. Bene. Adesso comincia a calmarsi tutto, il traffico, piano piano, sento più silenzio in giro. Bene, comunque oggi ho fatto di tutto per non accaldarmi e per non stancarmi, ma sono rimasto all'ombra, sia col lettino che con la sedia, e sono stato bene. C'era una breccia apprezzabilissima, poi l'acqua era un brodo, era appena appena gialla in riva, no? Però era un brodo. Cioè, quando c'è il colore della pipì è calda come la pipì, invece allontanandosi, andando verso gli scogli della rotonda, allora era più pulita. Sì, lo fa, soprattutto con questo clima. Già mi ricordo in passato com'era l'acqua di Platamona. Ma dove ti metti tu? Andando a sinistra verso il presidio militare o l'ex presidio militare? No, proprio rotonda. Rotonda, a sinistra, appena a sinistra. Diciamo 100 metri a sinistra della rotonda, 50 metri, là. Capito? Zona accessi, lì ci sono i bagni chimici o quello che è, insomma, tornano utili. E poi quando aggiusteranno le docce sarà ancora più utile quello. Che era bello farsi la doccia lì, ti toglievi il sale dei capelli di dosso. Non funzionano, ancora non funzionano, non so perché. È la solita cosa della Carlona di Lugomune, che è sempre un momento se non mettere di mettere a posto le cose, bubù, vabbè. Ascolta, di questa pagliacciata della nave cosa ne pensi? Ma quella della comandante donna olandese? Io penso sempre tutto il contrario di tutto, cioè posso capire che Salvini giustamente dice se non ne vogliamo immigrati poi irregolari, vorrei capire perché irregolari, cioè quando andavano gli italiani morti di fame in America, alla fine comunque non puoi, morale della favola, non puoi lasciare una nave in mezzo al mare con questo caldo a pigliarsi il tifo lì in 2 metri quadri, cioè a Malagana vanno fatti sbarcare e poi se mi stati o rimandati indietro se proprio sono talmente scomodi, cioè c'è un problema sanitario lì a lasciarli su una nave. Io se fossi stato uno della guardia di finanza, guardia costiera intelligente, avrei detto, beh, signori, qua c'è un problema sanitario, sbarchiamo di prepotenza la nave. Poi Salvini può sbattere i piedi quanto vuole, non lo so. Sì, lui a un certo punto c'ha ragione, però anche Trump, vedi, sta facendo il muro, sta diventando Salvini come Trump e Trump come Salvini sta diventando. Questa storia, c'è sempre stata l'immigrazione clandestina, non esageriamo, questi sia Trump che Salvini esagerano. E vabbè, poi ha criticato che quella era una comandante donna, com'è che l'ha apostrofata, vabbè, e anche sessista lui, capito? Era giusto per vedere insomma cosa ne pensavi, sì, poi vabbè, è chiaro che è tutta una manovra mediatica questa, perché nel frattempo che la nave staziona lì, sono fermate diverse barchine, è scesa anche altra gente, quindi già da lì capisci che il risultato che vogliono ottenere è un altro, quindi è solamente propaganda mediatica volta per, insomma, per cercare di togliere l'attenzione su altre cose, e poi praticamente per questa cosa va a giovare sicuramente e certamente quelli che ci guadagnano da questa operazione qua. Anche quello sì. Però questo braccio di ferro continuo, poi che piaccia o no, tutta l'Italia è un porto, è tutto coste, cioè come fai a non farli sbarcare? Cosa pigli a cannonazze? Poi ne facevamo le battute tempo fa al baracchino, qualcuno diceva bisogna ammazzarli tutti, affondarli i barconi, uomini, donne e bambini, devono morire tutti. Allora io sempre a livello di battute dicevo no, ma bisogna farli sbarcare, salvarli, dopo tutto sono esseri umani anche loro. No, dicevo, nonostante tutto sono esseri umani anche loro. Vabbè, battute da caserma sono quelle. Eia, comunque vabbè, quello che poi alla fine viene sempre omesso, alla fine la televisione ripete sempre il solito disco rotto, no? E poi le vere notizie non te le dice, cioè non ti dice praticamente che c'è una gerarchia nel diritto, no? Cioè anche nel diritto c'è una gerarchia, e praticamente come in tutte le cose prevale praticamente chi ha più peso, chi ha più autorità, e in questo senso rispetto al diritto civile, insomma al diritto alle norme di legge di uno Stato quale l'Italia, praticamente vengono molto prima quelle internazionali, quindi bisogna recepire prima quelle e poi dopo muoversi in ambito locale, in ambito nazionale, però praticamente ci sono prima tutte le norme e i trattati e le disposizioni internazionali da rispettare, capito? Cioè si va dall'alto verso il basso, e ci sono delle norme internazionali che qua in televisione, di cui in televisione non si parla, capisci? Cioè il diritto marittimo, il diritto civile, il diritto, cioè il diritto, insomma ci sono un sacco di tematiche che purtroppo non si affrontano, capito? Quella è una delle tante cose che vengono omesse, e poi il fatto che insomma che ci sia questa NG che avrà sicuramente verrà amministrata da qualcuno, avrà praticamente un amministratore delegato, avrà praticamente il suo titolare, il suo amministratore, insomma ci sarà un esecutivo che controllerà questa cosa qua, cioè di questo proprio non se ne parla, capito? E tutte queste cose vengono omesse, capito? Ecco perché la cosa puzza. Ma i più non si informano, nemmeno io so cosa prevedono questi trattati, questi diritto, quelle cose che hai nominato tu prima. È anche vero che l'Europa poi si riferisce indietro, i telegiornali non ne hanno parlato, no? Ne ha parlato la rete e pare che la signora Merkel, insomma in Germania, stavano impacchettando extracomunitari e rispedendoli in Italia, però sai come, siccome loro si opponevano giustamente a rientrare in Italia, e loro li hanno sedati, li hanno prima immobilizzati, poi sedati blandamente, caricati sull'aereo e mandati in Italia, perché secondo un certo trattato, cosa era? E com'era la storia? C'entrava il punto, dice, il primo punto di sbarco, cioè se ne dovevano stare al primo punto di sbarco, c'è troppo comodo l'Europa a senso univoco qua, capito? Come qua, allora quello non ne vuole, quello non ne vuole, l'est Europa è tutto, sta diventando lo stesso destroide, poi in Polonia, mai visto in Polonia apparate neofasciste, neonaziste, stanno girando male lì, non lo so. Vabbè, che te devo dire già, insomma l'Europa solo appunto quando sanzioni, capito, quando ci devono sanzionare, c'è cioè l'Europa, quando si tratta di redistribuire i migranti non li vogliono, ce li rimandano indietro, capito? Allora ho detto, cosa dobbiamo fare, tipo Argentina o la Germania, tipo Argentina, caricarli sedati sugli aerei militari, vai al largo dell'Atlantico, li scarichi in mare, così dobbiamo fare, ma roba da matti. Infatti vabbè, tutto un delirio. Poi una delle tante cose assurde è che viene citata la sovranità nazionale dell'Italia quando buona parte della sovranità nazionale praticamente non esiste più, visto che l'Italia è facente parte dell'Unione Europea, e per far parte dell'Unione Europea praticamente tu di conseguenza devi cedere quote della tua sovranità attraverso tutta una serie di mezzi come quello monetario, tra cui quello monetario, quindi capito, ci sono un sacco di trattati anche europei che l'Italia ha firmato e quindi deve rispettare. Poi è chiaro che si tende sempre a gettare fumo agli occhi, però praticamente le vere notizie poi uno se le deve andare a cercare. Sì, sacrosanto, quello è il sacrosanto. E poi vabbè, poi ci stiamo vendendo ai cinesi, mamma mia, le industrie italiane stanno finendo tutte da quella parte. Oh, vabbè che, adesso faccio una battuta, come ci siamo venduti agli americani tempo addietro, possiamo benissimo venderci anche ai cinesi, non credo che andremo peggio, che sia peggio l'altro versante. Ehi, ehi, vabbè, comunque, cosa ti volevo dire, adesso mi è sfuggita una cosa, ma non era riguardo quando negli anni, fine anni 80, primi anni 90, praticamente si è spacciata la privatizzazione come chimera, come risoluzione dei problemi di tutto e di tutti, praticamente anche lì hanno montato praticamente un bel teatrino, e poi alla fine praticamente la privatizzazione poi alla fine è stata la rovina praticamente, tra virgolette, di quello che si può chiamare Italia, dai, perché poi dal momento che si privatizza tutto, praticamente qualsiasi cosa diventa una società per azioni, e quindi di conseguenza il primo obiettivo di una società per azioni è il profitto, quindi vai tu, e da lì si spiega tutto, no? Sì, sì, ogni azienda, sì, ogni azienda praticamente il profitto è l'unica cosa che conta. Una domanda, siccome non ne sto manco leggendo, perché ma questi open arms e tutte queste cose umanitarie, è vero che vanno a fare raccolta lì per scaricarceli qua? Perché lo fanno? Perché se veramente lo fanno, perché lo fanno? Non capisco. Cioè, finché arrivano per conto loro con quelle carrette del mare è un conto, ma che facciano la spola a scaricarci questi che poi molti vanno a delinquere, lo sai, a spacciare, a fare altro, diciamo i più fortunati, o forse i meno fortunati, sì, capitale umano come, però vanno a lavorare alla Cirio come schiavi, mattina a sera, un euro l'ora per raccogliere pomodori, dalla mattina alla sera, mi è uscito anche un marchio a caso, perché sicuramente è così, capito? Quelli li usano come capitale umano, ma a livello di schiavi, cioè super sottopagati e a orari folli, orari non umani, che nessun italiano accetterebbe, ma nessun europeo, ma nemmeno nell'est accetterebbero tali orari. Ebbè, Luca. Mi è appena arrivato al mare. Allora. Furu tu, dove eri? Ma a Sorso? Attendo. Ah, sto bene lì. Ciao Gianni. Ciao Luca, buonasera, ben entrato. Sta bene a Sorso, dai, a Puglia. Poi c'era l'elicottero che prendeva l'acqua, l'ho messo fuoco lì, sono di Sorso. Manco detto. Tipo quello dei Vigili del Fuoco, poi era forse un elicottero privato. Quindi anche oggi c'è fuoco. Hai visto? Manco detto, è ancora. Poi è piromani. Ti dicevo già, per queste cose qua, queste open arms e tanti altri nomi, perché fanno la spola? Perché ce li rifilano? Quasi li accompagnano proprio da domicilio alla. Perché? Perché lo fanno? Perché sono buoni? Perché ci guadagnano? Qualcosa ci deve essere dietro, no? La seconda che hai detto. Ecco. Sempre andiamo a finire ai soldi, è uno schifo, non ci sono ideali, tutto è per i soldi. Certo, qualcuno l'ha chiamato lo stecco del diavolo, no? No, vabbè, vai. Diciamo che basta fare qualche ragionamento anche molto semplice e uno le risposte le trova da solo, non c'è bisogno di leggere chissà che cosa. No, ti ripeto, ho tirato fuori questo argomento perché mi dà fastidio sentire sempre il solito disco rotto e poi alla fine è la solita pappa pronta, sono le solite veline che girano, però alla fine nessuno dice niente di nuovo, capito? È quello che poi fondamentalmente mi dà fastidio, non per altro, è giusto quello. Poi vabbè, io già mi sono fatto le mie idee, quindi no, e nessuno pensa come le smonti. Vabbè, detto questo, vediamo di farci fare un resoconto da Luca della sua giornata marittima. Ah, niente di che, dai, passeggiate, qualche birrotta fresca e niente, poi di sole, due chiacchiere, un bagnetto ogni tanto e si stava benissimo, dai. C'è caldo però a Sassa, là si stava bene. Io ero alla rotonda, Luca, e si stava benissimo, all'ombra stavi benissimo, o in acqua, l'acqua era brodo. Vabbè, mi aspetto che esca a 25 euro al bagno, mi faccio una bella doccia, mi cambio, mangio e usciamo. E non sei già stanco dal mare, no? Cosa fa a casa mi dico, appena un po' di freddo, un altro mezzanotte, massimo un'ora siamo a casa, e poi domani tutto relax. Ma tu stai andando in piscina perché avevi pubblicato uno stato, come si chiama, quello di WhatsApp, no? E ci sei tu che esci da una piscina, giusto? Si conferma, sì. Intanto ci andiamo, dai. È già bella anche la piscina, acqua cristallina, è tutto insomma, un po' colorata, ma già ci sono le cuffie da nuoto. Sì, la cuffietta è, vabbè, poi si vuoi portare gli occhialini, perché visto è considerato che c'è la, ma come si chiama, la medicina che mettono. E infatti se non lo facessero con tutti quelli che vanno in piscina diventerebbe una, come si chiama, la piastra di Petri, una coltura di batteri, diventerebbe un brodo veramente, un brodo primordiale. Chi è che mi chiama avanti? Chi ha chiamato sotto Marco avanti? O niente su Luca proprio. Eia, va bene, dai, se vuole entrare entrerà. E non tarderò ad andare via io adesso. Bene, caro Gianni, fra poco, sì, dai, faccio, sbrigo queste cose, poi mi sciacquo io e poi mi accendo la TV ed è fatta la giornata anche oggi. Ehi, dai, colgo l'occasione, visto che c'ho il microfono, dai, anche io stacco, così almeno, niente, dai. Grazie a questo, ci aggiorniamo appena coincide. Dai. Buona serata, buona doccia, tante cose belle. Saluto anche Luca, buona serata. Niente, dai, ci aggiorniamo alle prossime. Ok? Ciao ciao. Ciao Gianni, dai. Ciao Marco, la chiudo pure io, guarda la palla. Alla prossima, domani sentiamo fuori, se no boh, alla prossima settimana. Ciao. Ciao Luca, ciao, ci sentiamo. Già, ti volevo chiedere, a internet come sei messo? Velocità proprio bassa bassa, perché? No, vabbè. No, perché un breve spezzone potevo metterlo su YouTube, però lo devi vedere a 1080p 60 fotogrammi. Non so nemmeno il tuo telefono che definizione ha, massima, che definizione supporta. Non ci arriva comunque, neanche in HD radio, non ci arriva credo. Ah vabbè, no, allora no. No, perché per guardare la mia 480p poi non si vede, non si vedrebbe la differenza, vabbè. Vabbè, niente di che allora, dai. Ci sentiamo, buona serata, buona cena quando lo farete, buon sonno quando lo farete, ci sentiamo domani o quando capito. Ok, ciao Luca, ciao Gianni, ciao ciao. Ciao caro.